andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle riunioni sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ride minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Parenzo, sei uno zero assoluto. Smettila, tacci. Non conti un cazzo in questo programma. Ma senta, Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Ragazzi, voglio iniziare stasera facendovi ascoltare la voce di una donna. La voce la di una. No, che Boldrini, no. Assolutamente. Beh, insomma, si avvicina un po' alla Boldrini in realtà. Una signora convertita, una giovane ragazza, figlia di un'albergatrice di Sondrio, che ospita profughi, ospita immigrati. Sì. Che tra l'altro si è fidanzata e aspetta un figlio, non so se si è sposata con un profugo che ha conosciuto nella stessa struttura, per carità, niente di male. Vabbè, ovviamente non ci sarebbe assolutamente nulla di male. La quale, intervistata dalle reti Mediaset, non so se per una trasmissione o per un giornale radio o per un telegiornale, scusate la deformazione professionale, ma non ha importanza qui, importante è la frase che ascolterete tra poco. Sì, popolo della radio, popolo della Zanzara, è una frase bobolo ognuno della radio. Sì, bobolo, com'è che si dice in arabo? No, siccome sei portavoce ormai della comunità musulmana italiana. Sì, no, portavoce un cazzo. Ti dirò che continuo con questa prolusione, perché poi c'è una novità da domani alla Radio 24, alla Zanzara. Sì, qual è? C'è un ospite fisso che sarà il mio fruttivendolo egiziano. E fortissimo, veramente, che ti racconterà il fruttivendolo egiziano. Sì, bravissimo. Ma te lo puoi scordare? Ma quale fruttivendolo? Ascolto ogni sera quel bostribolo, ha detto. Ha utilizzato la parola bostribolo. Molto divertente, ma molto insultante per noi fratelli, ha detto. Voglio dire al signor Cruciano. Sì, Cruciano, ha detto Cruciano. Al signor Cruciano. Deforma anche lui i nomi. Certo. Signor Cruciano, che ha detto. Cruciano, che noi donne. Non essere cattivi. Noi donne rispettiamo. Sì, col cazzo. A proposito di donne. E io gli ho detto, fratello, sono arrivato oggi per comprare la frutta e la verdura, no? Stamattina sono andato lì. Sì. E gli ho detto, abbiamo fatto la spesa, eccetera. Sì. Gli ho detto, fratello, quando devo? Lui mi ha detto, solo averti visto per me riempie gioia. Pensa vai. Che stronzo. E io dico, no, come riempie gioia? Devo pollo. Pagare. Però. Pensa che pollo. Gli ho detto no, mi sono 30 euro. Dico, fratello, come 30 euro? La frutta arriverà. Quindi che cazzo è? Fratello, è frutta buona. Cioè, allora, Parenzo spende per la frutta al centro di Roma, a Prati, praticamente in una gioielleria. La notizia è questa: una trentina di euro. No, ma una trentina. Ma sì, hai comprato 3 kg di qualcosa. Alla 3 kg. Fatto grande. Ma sì, come i formaggi. Come i formaggi. Poi gli ho detto, scusami, quell'avvocato lì è buono. No, non abbiamo processi. E si è messo a ridere. Ah, perché l'avvocato invece degli avvocati. L'avvocato volevo io, non l'avvocato. Non abbiamo processi noi buoni fra Egitto. Allora ragazzi, da però, domani, ma perché mi fai fisso. perché mi fai cambiare fisso. Argomento ogni volta, mi porti da un'altra parte, mi porti, non c'è nulla di importante. No, ma qui c'è la poesia, ragazza, importante, allora questa è importante. Allora, questa ragazza, concentrazione per qualche secondo, ragazzi. Allora, si chiama Silvia Salvi, è una ragazza che si è convertita all'Islam. Sospendiamo il giudizio sulle conversioni, anche se dopo lo darò durissimo sulle conversioni. Ma che c'entra? durissimo sulle conversioni, e concentriamoci sulla frase che state per ascoltare, perché la signora, ripeto, Silvia Salvi, ha detto una frase che riguarda tutte le donne occidentali, che non riguarda solamente quelle che si sono convertite all'Islam, riguarda il modo di vestire, come andate in giro, il modo in cui vi preparate la mattina prima di uscire o prima di andare a cena o prima di incontrare il vostro fidanzato. come una donna convertita all'Islam quello che pensa sui vestiti, sulla vita di oggi, eccetera, eccetera. Sentite. Sono assolutamente donna come lo ero prima, anzi, sinceramente mi sento molto più donna adesso di quanto ero, di come ero, diciamo così, prima. La donna italiana, è bruttissimo dirlo, sto dicendo una cosa che sinceramente è, tante me ne diranno dietro, la donna ultimamente, non dico si vuol far violentare, mi esce in giro con la minigonna, mi esce in giro con i tacchi a spillo, mi esce in giro per far vedere cosa? Per essere sensuale, sinceramente è quasi un invito. Ragazzi, io non ho parole, eh. Io non ho parole. Non ho parole, cosa bisogna aggiungere di fronte a queste frasi? Non bisogna aggiungere nulla. È la teoria delle peggiori bestie, uomini spesso che sono in rete, non solo in rete, sì, che dicono le donne che escono con la minigonna, con i tacchi a spillo e non so con che cos'altro, cioè facendo vedere le tette, facendo vedere il culo, spingono gli uomini a violentarle, che è una Vabbè, ma qui siamo alla puttanata, follia, dai. Ma proprio galattica. Ma non c'entra la religione, c'entra la stupidaggine qui. Allora, ragazzi, non c'entra mai. Cioè, questa qua è islamica. Io la rispetto per la sua conversione. Che si è convertita e si è fatta un'idea sua. Ma voglio dire, i matti esistono in tutte le grandi comunità. Ma questa non mi sembra matta, ti assicuro che ha la voce non uno da matta. Uno che dice una cosa simile, è una cosa ragionata. È una cosa ragionata. Proviamo a chiamarla più tardi. È chiaro, ma ci abbiamo tanto tempo, 2 ore e mezza. Mezzo che ci frega. Allora. Salvini ci ha detto ieri che si vuole arruolare nell'ISIS. No, nell'ISIS, scusate. Si vuole arruolare. Cioè, farebbe volentieri la guerra. È vero, ho fatto il militare tardi. Ho fatto il militare 20 anni fa, più di 20 anni fa, nel 95. Sono un po' arrugginito, però se la patria mi chiama, ci sono. Tu ci andresti a combattere? Al fronte. Beh, io ho fatto un anno di servizio militare nell'ormai lontano 95, però se ci fosse da difendere il futuro dei miei figli e la pace messa a rischio, io faccio tutto quello che si può fare. Cioè, per anche fisicamente parlando, un soldato modello, voglio dire, sono un po' decadente fisicamente. Però ti mettono in cucina a fare la polenta taragna. Però se ci fosse bisogno andresti, cioè, se ci fosse... Ma io penso che tutti dovremmo essere pronti a rispondere nel momento del bisogno, sperando che non ci sia. Allora ragazzi, ovviamente immaginatevi un esercito in cui c'è anche il signor Salvini. Pensate, con a fucile. A quel punto il califfo ha vinto tutta la linea. Vabbè, adesso dai, è facile, l'ironia, dai. No, ma non è facile, mi pare normale. Pure Gasparri twitta delle cose molto guerresche in questo periodo. Gasparri molto... potrebbe partire, non è male l'idea di mandare Gasparri molti in prima linea. Molti dicono non è male, speriamo che Salvini parta, no, eccetera, eccetera. Questo nessuno, questo beh, no, non si augura nessuno. Ho letto qualsiasi cosa, no, speriamo che parta, se vuole partire speriamo che parta. Allora ragazzi, ieri ero in trepida attesa, volevo vedere alle Iene un servizio che era stato annunciato tra l'altro sulla pagina Facebook delle Iene sugli scontrini di Renzi. Sono un po' perverso, è vero, vedo le Iene per altri motivi, per i servizi di luci, ogni tanto fanno i servizi sulla prostituzione che sono eccezionali, molto eccetera bene, eccetera. Molto bene. Resta uno dei migliori programmi in circolazione, forse è il migliore, non c'è dubbio. E aspettavo questo servizio che era stato annunciato 30 secondi dal mio amico Dino Giarrusso, bravissimo, signor Giarrusso, che andava a rompere i coglioni a Renzi con quella barba nera, quei capelli, bravissimo. Allora, signor Giarrusso aveva scoperto delle cose nuove annunciate da lui stesso in un servizio, delle cose nuove sugli scontrini di Renzi. Aveva scoperto, ma questo l'ho saputo io da altre fonti, che Renzi si è fatto pagare dalla provincia di Firenze, quando era presidente della provincia, una cena da 80 euro. Si una cena fatto chiara, si sarebbe fatto pagare. Grazie per avermi salvato da una querela. Prego. Di 80 euro una cena familiare. Solamente con la moglie, che tra l'altro era incinta della terza figlia. Beh, se era incinta. Avevano scoperto addirittura con tanto di fattura mostrata in questo servizio, e avevano scoperto pure che la scusa ridicola del sindaco attuale di Firenze Nardella di non rendere trasparenti le spese di Renzi al comune, perché c'è un'inchiesta dalla Corte dei Conti, non sta da nessuna parte, cioè non regge in piedi dal punto di vista legislativo. Vabbè, insomma, alla fine questo servizio, la notizia è questa, non è andato in onda. Allora, perché non è andato in onda questo servizio annunciato? Perché c'è stata una manina dall'alto che è intervenuta, anche. Ma non lo vogliamo pensare, per carità. oppure problemi legali. Si sarà inceppato. Beh, però il c'è disco, molta gente incazzata. Il mangianastri, eh? Dove si mette la cassetta. Ah, inceppato, si sarà inceppato. Ma non è, il mangianastri. Ma che sei, Berlusconi ancora col mangianastri? Cioè, quello va in automatico, tutto digitale. No, tu c'è il mangianastri. C'è, ma un signore mangianastri? Che porta una cassetta. Ma magari è inciampato, è caduto il caffè sul nastro. Vabbè, della comunque, cassetta. Restiamo con questa domanda appesa. Che è successo? Una manina dall'alto per non far partire un servizio imbarazzante non su Renzi? No, oppure. No, no. Oppure l'ufficio legale che credo. Ha bloccato tutto, No. Beh, non lo so. Oppure c'è un po' di gente indispettita. Malefici per che siete sempre, malefici. Va bene, 800240024. Invece è incazzata come una biscia con Salvini, non solo con Salvini, per quelli che scrivono sul web delle cose tremende su di lei. Lo abbiamo già detto ieri. Grande ritorno alla Zanzara. Molti mi dicono perché inviti ancora Alba Parietti. Vi dico solamente una cosa, amici miei, che ieri Salvini mi ha detto che la diatriba che c'è tra lui e la Parietti ha avuto il massimo dei click su Facebook. Cioè, alla fine invito Alba Parietti perché è ancora una persona, oltre per le cose che dice, ovviamente perché è una persona estremamente popolare. Non c'è niente da fare così. Buonasera, buonasera. Buonasera, no, ti ringrazio. Ma dipende perché cosa si diventa popolare. Io non voglio scegliere. Allora, innanzitutto. No, ma che hai fatto? Aspetta, io sono estremamente spaventata, sì. Oltre che allibita. Ah, sei spaventata perché? Perché sei spaventata? Insomma, allora, io ho espresso un parere che penso che poi le 15.000 persone che hanno poi commentato con oscenità irripetibili, talmente di una volgarità. Ma che ti hanno scritto? Faccio un esempio, se no non capiamo. Leggine qualcuno tu. No, l'ho letto ieri, No, non sono abituato affatto a queste letture, non dire stronzate, dai. Hai tu il nome, perché tu so che che mi dice una signorina, che mi dice quella. Allora, che aspetta, Valentina Lamberti, ma questa sempre fa. Ma questa. Valentina Lamberti è querelo, tra l'altro. Ma questa. Cioè, voglio dire, benissimo. Insieme a quelli che poi leggerai, sono già stata ieri. Allora, aspetta, perché... aspetta un attimo, ma brava, questa brava, ha sempre giusto. Fatto. Ma questa ha sempre fatto Pompini da quando è nata? Deve chissà esempio, chi la sua presenza in TV. Che tra l'altro credo che. Allora, io ho parlato di Salvini in questi termini. Ho detto più di una volta che fa discorsi antropologicamente ignoranti, quindi non gli ho dato degli ignoranti. Beh, insomma, ho detto che sono peggio. Discorsi che non tengono conto di ciò che è stata la storia, anche la storia del nostro ma paese. Ma hai detto che è un cazzaro da bar, dai, su, io sintetizzo. Detto che da un aspetta, fammi dire, perché se no vedi c'è, è un'altra mistificazione che c'è. Ma no, Alba, non giriamo intorno sulle cose. Hai detto che è un cazzaro, però, da bar. Scusami, io voglio parlare, se tu mi fai chiarire, perché questa roba qua mi sta veramente rompendo i coglioni. Allora, io sono stufa di essere mistificata e quando dichiaro una cosa voglio che io mi prendo le mie responsabilità, perché le ripeto, ma le ripeto come le ho dette, non come poi vogliono essere. Ho capito, ma hai detto questa cosa come ha fatto il giornale, che addirittura che ha fatto parlato il di uno scontro fisico quando io ho parlato di un duello con lo schiaffeggiamento. Vabbè, ma nessuno ha capito un'altra cosa, dai, nessuno come ha capito. Si faceva nei duelli dicendogli facciamo un incontro e incontriamoci e facciamo una discussione, perché ho detto che il dialogo è l'unica strada. Dopodiché, ma lo schiaffeggeresti? Sono persone che hanno semplicemente sentito qualcosa senza aver capito un cazzo di quello che ho detto, si sono scatenati in una bagarre di insulti e di oscenità che sinceramente non fanno altro che dimostrare che quando io dico che lui istiga un certo tipo di violenza attraverso discorsi totalmente come dire, scusa, ma non è colpa tabarra, sua, ma non è colpa sua. Aspetta, scusami, Alba, no, aspetta, aspetta, adesso fermati un secondo che ti faccio. Vorrei specificare. No, ma aspetta, che non è il popolo della Lega in generale, mi fai finire. No, ma aspetta un secondo, perché tu hai detto una cosa importante. Adesso fammi intervenire su questa cosa qui, no, se no voglio dirti che molti leghisti si sono dissociati e mi hanno chiesto scusa per le offese che mi sono state mosse, che però sono molti leghisti, dai leghisti e molti leghisti, chi? Da gente stupida, Molti leghisti, chi è che ti ha chiesto scusa? Molte persone che votano la Lega mi hanno scritto dicendo che si dissociavano giustamente. Ma certo. Pur dicendo lei non la pensa come me, ma trovo immondo. Scusa, perché però perché tu riferisci a Salvini come responsabilità di Salvini delle cose che sono uscite sulla sua pagina Facebook? Scusa. Se io butto in allora, lui sa esattamente che tipo di persone frequentano la sua pagina. Ma no, ma c'è chiunque là, c'è chiunque. Poi ascolta, io capisco che tu c'hai il cursore in mano, però poi io pago le conseguenze con quello. Ma non c'entra niente insulti, il cursore, dai, ti su. Ammazzerebbero un bambino, te lo assicuro, perché ti assicuro che basta. Ma non esagerare, dai, non sei abituata a quello che dai, succede in rete, succede no, di tutto, abituata, dai. Te lo posso assicurare, la mia dignità non è abituata a prendermi da Pompinara, mio figlio Frocio, drogato e tutto il resto. Frocio non è un insulto. A parte la solita storia della bocca, gommone, che quello oramai non mi fa proprio una. Proprio non li considero neanche. neanche più, ma erano solo questi commenti. Giustamente un leghista che si ritiene per esempio una persona seria non può dire d'accordo, io mi perché tu dici questo, che Salvini ha prodotto questa roba qua, perché dici la lapidazione che... mediatica oltretutto veramente dai. Immonda oltre che volgare, fatta peraltro da donne che con la politica non hanno nulla vabbè, a che vedere, perché le attribuisci a Salvini, che colpa Troia, d'accordo, che colpa ha Salvini, però me lo dici dopo il traffico, che colpa ha Salvini dei commenti osceni, non c'è dubbio, osceni usciti sulla sua pagina Facebook. Aggiungo però che queste robe qui in rete si ritrovano ogni giorno, poi uno può dire mi fanno schifo, però ogni giorno io ricevo le cose più turpi, non sono colpito da queste cose perché sono abituato, magari tu non sei abituato a traffico. Tu che fai quando vai a dormire, ti sogni traffico? Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Allora, questa era la voce di Paolo Ruffini. Alba, io non ho capito, ieri ti sei presentata dai carabinieri. Carabinieri, sì. Che faccia ti hanno fatto quando tu più che altro hanno fatto veramente, erano alla fine quando hanno letto, dunque, Valentina Lamberti, sì. Questa signorina di Salerno scrive, vabbè, non diamo ma troppo questo importanza. Ha sempre fatto pompini da quando è nata. Chissà chi deve, questa è uno per esempio, sì. Questa, una signorina di quello, poi nella denuncia che è già stata fatta, molto sì. Bene. I carabinieri erano senza parole, mi hanno detto signora, con tutti ma i problemi che hanno, gente... con tutti i problemi che hanno, si è andata là e questi qua. No, ma ragione, no, però, invece scusa. Ti posso spiegare una cosa, tu hai presente che cos'è il cyberbullismo? Sì, tu sì, probabilmente certo, la faccia come il culo sei abituato. Io no, non sono abituata a ricevere informazioni, sì, prendermi della troia. Gente che francamente, scusami, commenti sul mio figlio sgradevolissimi, eccetera, eccetera. Allora, io capisco che c'entra Salvini. Una volta per aver dato del razzista a uno in televisione che era un razzista, mi sono fatta un processo penale. Quindi non ma vedo che c'entra questi... Salvini? Tu puoi fare quello che allora, vuoi. Aspetta, te lo spiego. Questo si chiama cyberbullismo. Vabbè, d'accordo, adesso se qui. Tu butti in pasto, io pretendo le scuse, veramente, perché se io so che queste persone che vedremo. Frequentano la mia pagina sono persone di questa violenza morale e di questa dicono delle oscenità invece di parlare e di dare delle risposte normali che vanno da vai a prendere il primo che ha scritto quello lì che denuncio, il primo che ho denunciato, va bene, d'accordo, ma allora che c'entra Salvini? Fa apologia di fascismo, apologia di qualsiasi d'accordo, cosa, che c'entra Salvini? Una delinquere fotografa pistole, cose di questo genere. Vabbè, quello non è allora un io delitto. Ti spiego, se sulla mia pagina Facebook io scrivo una frase diciamo contro Barbara D'Urso e uno si permette di scrivere una cosa del genere, io dopo un secondo lo cancello, perché io personalmente non posso istigare. Cioè tu vuoi le scuse da Salvini? Vuoi le scuse da Salvini? È come se io invito. Allora, il signor Salvini cosa ha fatto? Ha estrapolato dal testo della conversazione, vabbè, quello prendendo che è. Quello che faceva comodo a lui nel modo in cui faceva comodo a lui, ha secondato dal giornale che gli ha fatto lo stesso servizio dicendo che io addirittura volevo fare violenza fisica quando io parlavo di un vabbè, duello. Ma ti deve chiedere scusa per i commenti? Schiaffeggia, lo sanno i non ignoranti. Va bene, però andiamo al sodo, Alba, dai. Aspetta. Andiamo al sodo. Il signor Salvini, non mi ricordo dove cacchio ero rimasta, mi butta in pasto come si buttavano una volta come i cristiani buttavano per farli divorare dai leoni. Ma non esageriamo. Sapendo chi l'arena. È il tipo di persona che frequenta questo tipo di... ma uno che dice scrive... che ti vorrebbe chiappettare o ti vorrebbe stuprare non è mica un amico di Salvini, scusa, abbi pazienza, scusami, dai. Ma allora posso dirti appunto per questo, ma allora perché buttarmi in pasto a questo genere di persone? Allora io ti dico questo, io ho le spalle grosse, domani non me ne frega più già una mazza di questa cosa, ma ti assicuro che io mi sono resa conto che se io fossi stata tipo una, io ho sentito di tanti ragazzi o ragazze o persone anche violentate, violate, omosessuali che si sono suicidati per molto meno, te lo posso assicurare. Ma questo che c'entra, caso, dai. Certo, le spalle grosse, no, è cyberbullismo. Vabbè, allora, ho capito. Alba, cosa vuoi da Salvini? Aspetta, tu te le immagini un almirante? Ma non c'era il web, dai. Facebook per far insultare una tra virgolette subretta. Ma stai dicendo che lui ha istigato? È antropologicamente ignorante. Ma no, lui, stai dicendo che lui ha istigato queste persone a sputarti addosso e a insultarti? Butti. Allora, scusami, voglio dire una cosa, tu puoi pubblicare. A parte che una conversazione o la pubblica per intero e ne prendi il senso giusto, ma non è che puoi mettere a destra e a sinistra. Se tu sai che è una parte del tuo elettorato che tu istighi normalmente, come io sostengo tra l'altro attraverso questi discorsi, diciamo un po' da bullo, da ma che doveva fare? Cancellare i sigli? Aspetta, ma certo, ma il minimo, ci deve essere un garante, non può succedere, perché se no, se io vengo a casa tua e arriva uno e comincia a prendermi a parolacce, a dirmi che sono una troia, una bocchinara, beh, e tutto ragione, il resto, scusa. Io esigo che tu da padrona di casa lo sbatti. Dunque fuori. Tu vuoi le scuse da Salvini e poi ma che mi cancelli? Sarebbe semplicemente un fatto di eleganza, ti posso dire, anche a nome. Ma è lui che ha una parte di elettorato. Vabbè. Che essendo leghista e non essendo questo genere di leghista, si è sentito offeso da questo tipo di affermazione, perché allora vuol dire che i leghisti, ma queste persone qui le ha prodotte lui? Queste persone qui le ha prodotte lui? Che lui attira con frasi da bullo, perché questo è stato il risultato. Ma scusami, se gli chiedono l'amicizia, Alba, ma non è l'amicizia, è la pagina pubblica, non dire stronzate, dai, su, non sapete le cose, è la pagina pubblica, scusami, qualsiasi chiunque può parlare. Il ragionamento di Alba è giusto, cioè le pagine pubbliche, se sono fatte piene, se sono arrivano a istigare la violenza, a essere, cioè, veramente dei ricettacoli di offese, ragazzi, immonde e oscene. Io so solo che tu sei andato dai carabinieri mentre c'è l'allarme sicurezza in Italia. Ho capito, ma c'è l'allarme sicurezza in Italia, che i carabinieri non si possono occupare di queste cose sul web, dai, pure te. Ma non è vero, invece lo devono fare e giustamente l'hanno fatto. Va bene. Ma perché cosa vuol dire l'allarme sicurezza? Ma no, è una battuta. Perché, dai. Scusami, ti faccio. Allora, che cosa vuol dire? Che dal momento che adesso piace l'allarme terrorismo, svaligiano a casa tua, allora svaligiano. Ma quei poveri carabinieri si sono visti di fronte a, cioè, ci sono cose un po' più importanti di cui occuparsi, non quattro coglioni che insultano, per carità, e sono dei deficienti, degli imbecilli. Dai, a tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara. Viaggio a Cuba, mi sono divertito, trombavo come un animale, sono andato in Thailandia, trombavo come una bestia e sono uscito fuori dalla depressione. Non voglio scendere al suo livello, Cruciani, non voglio scendere al suo livello, se lo lasci dire, è una vergogna quello che fa lei. Così come fate la lista Zanzara, fate la religione Zanzara, io voglio dare il mio 8 per 1000 a voi, non alla chiesa. Cruciani Akbar. Le religioni hanno rotto il cazzo, basta con ste cazzo di religioni qualsiasi tipo, basta. Vi ricordo sempre il numero dove mandare i vostri gentili messaggi, caro non Parenzo. Non sia mai che la gente non mandi messaggi, No, questi messaggi... fini teologi, guarda, questi fini intellettuali, esce... al microbo. Macabro servizio di Cruciani. No, al macabro. Che servizio? Sei macabro. Sempre il solito, dai, macabro, sei sempre il solito. Macabro. Ma no, dai, 393-71-71-701, la linea. Ma scusa, non potevi per fare il numero del diavolo, potevi fare la linea 666. Avresti bravo, mi hai dato un'idea. Mi hai dato un'idea, 393-71-71-701. Tra l'altro c'è un numero abbastanza simile con un poveraccio che mi ha mandato un messaggio, non audio purtroppo, dicendo vi denuncio se non specificate bene il numero. Credo adesso, non lo voglio dire, sennò altrimenti la gente lo chiama apposta. Ah, gli arrivano telefonate? Eh sì, gli arrivano telefonate perché è un numero simile. Cioè questo, il nostro è 393-71-71-701 per mandare messaggi, video, audio, quello che volete. Ma video è la radio, non è la TV. Ah no, poi mandiamo in onda tutto. Il punto è un altro, è che evidentemente ci sono dei numeri molto simili con uno zero davanti, un zero finale. Certo. E questo poveraccio che mi ha mandato un messaggio, non ne posso più, ricevo telefonate tutto il giorno. Allora, parliamo di cose serie. Messaggio di Rasmea Salah, una ragazza musulmana. Veramente non ne posso più. Che dice: i funerali di Valeria per l'ISIS sono un fallimento perché hanno raccolto nella stessa piazza i rappresentanti di tutte le religioni. Proprio ciò che non vogliono. Ma chi se ne frega? Oggi abbiamo bombardato l'ISIS di civiltà. Ma chi se ne frega delle manifestazioni? Grazie Rasmea Salah. Grazie Rasmea Salah. Ma tu, ma veramente tu sei veramente un imam ormai. Imam Parenzo. Sì, cioè, una roba sono di un'altra, incredibile. Sono di un'altra parrocchia, ma te l'ho già spiegato, di un altro partito. Però voglio mettere in evidenza. Mamma mia, tu non sei ancora guarito, Cristo. Non sei ancora guarito. Ma ti rendi conto, non è un mese e mezzo. Positive. È... Ma chi se ne frega? Le cose positive che vengono fuori da questi migranti, vabbè, da questo popolo, da questa gente. Vabbè. Ecco. Rimandiamo in onda l'audio della ragazza musulmana, sì, convertita, quella del Corno. Ecco, che appunto, quella è più interessante. È più interessante. È giusto per buttare benzina, no? Per buttare benzina, dai, su. Commentare. Sono assolutamente donna come lo ero prima, anzi sinceramente mi sento molto più donna adesso di quanto ero, di come ero, diciamo così, prima. La donna italiana, è bruttissimo dirlo, sto dicendo una cosa che sinceramente è, tante me ne diranno dietro, la donna ultimamente, non dico si vuol far violentare, mi esce in giro con la minigonna, mi esce in giro con i tacchi a spillo, mi esce in giro per far vedere cosa? Per essere sensuale, sinceramente è quasi un invito. Ragazzi, è incommentabile una cosa del genere, dai, è incommentabile. 800240024, ripeto perché Parenzo mi interrompe, 800240024. Andiamo a Venezia da Marco, vai Marco. Buonasera, dimmi. Vai, dai, forza con sto grazie. Allora, sono assolutamente d'accordo con la donna islamica, io sono italiano, sono cattolico, vabbè, insomma, ho famiglia, però sono assolutamente d'accordo, ci sono tante donne, tante ragazze oggi che si vestono dando l'impressione che sono una caccia grossa. Ma che cazzo stai dicendo, Marco? No, ma sei completamente... Guarda, e allora? Ma mettiamo che sia così, allora? Pazzesco. Si vestono per andare a caccia, allora? Ho allora? Una figlia di 20 anni, e allora? Probabilmente si veste anche tua figlia per andare a caccia, allora no, qual è il punto? No, a parte questo, ho una figlia di 20 anni, ha visto l'altro giorno il film Una poltrona per due, c'è una scena di un'attrice vestita da prostituta, lei ha detto, l'ha detto lei, non gliel'ho visto, ha detto quella è vestita come oggi sono vestite tante ragazze e tante donne, da prostituta. Ma io non ho capito. Ma dipende, ma non è vero, ma aveva la minigonna. E come era vestita? E come era vestita? Scusami, spiegami. Guarda il film Una poltrona per due. Non lo so, non me lo ricordo. Dimmelo tu, come era vestita? Ma era vestita in minigonna con vestito in minigonna. Era vestita in minigonna con la minigonna. Ragazzi, mi sembra di essere tornati a Fanfani degli anni 70 nella battaglia sul divorzio. Mi sembra di essere tornato a questi. Gli islamici, certi islamici, ci vogliono portare a queste discussioni. Questo è italiano. Questo purtroppo. Questo qui, come si chiama? Marco da Venezia. Infatti, molte cose coincidono. Le religioni, come diceva l'ascoltatore prima, le religioni hanno rotto il cazzo, basta con ste cazzo di religioni qualsiasi tipo, certo. Basta. Ma chi allora, è questo Umberto Eco? Chi è questo qua? Beh, guarda, ci sarebbe da discutere su questo. L'uomo è cacciatore. Cosa vuol dire questa frase? L'uomo è cacciatore. Io divento pazzo. L'uomo è cacciatore. Che vuol dire? Me lo spieghi? L'uomo è cacciatore. Senti, più minigonne, meno sciocchezze. No, meno Marco da Venezia. Ma Marco, però, io rispetto. No, Giuseppe, il sesso è una cosa bellissima se è fatto con la propria donna, ma non può essere. Ma ognuno fa il cazzo che vuole. Ognuno fa quello che vuole, amico mio. Ma che vuol dire il sesso è bellissimo se è fatto con la propria donna? Viene volgarizzato così, diventa da una cosa bellissima, diventa la donna diventa un oggetto, non è la che vuol dire cosa, la donna diventa un oggetto, amico mio, ma tu puoi pensare quello che vuoi e nessuno ti dà fastidio, certo. Il problema qui è un altro, non è la cosa, non è, ma che lo dica l'islamica, quello dico io, non cambia niente, ma lascia perdere, il problema è un altro, amico mio, non è quello che tu preferisci per tua figlia o quello che tu vuoi vedere in televisione o quello che tu hai come idea della vita, della società, della donna, non me ne frega niente, anzi no, me ne frega perché sei un ascoltatore interessante, quello che dice va bene, io lo conto eccetera. La signora musulmana, la figlia di un albergatore della Valtellina che ospita profughi, ma lo sto dicendo non perché sia un aggravante, semplicemente perché è una notizia per descrivere il personaggio, ha detto un'altra cosa, ha detto che le donne occidentali, le donne di oggi, come era lei fino a quando non ha incontrato un profugo e poi è diventata musulmana, le donne che si mettono la minigonna o i tacchi a spillo, così ha detto lei, oppure che vanno in giro semi-nude, come si dice con un termine un po' arcaico, con magari mezzo seno di fuori, con le tette un po' sviluppate, cose normalissime, ragazzi, c'è di tutto in giro, non diciamo stronzate. Istigano allo stupro e alla violenza, invitano allo stupro, è quello che ha detto questa signora, ragazzi, è un'altra cosa, e tu sei d'accordo con questo obbrobrio, Marco? No, io no. No, tu no, Marco, sto dicendo. Alcune sì. Ma vai a cagare, dai, su Marco, su, dai. Non ci credi neanche tu. Grazie dell'ospitalità, buon lavoro. Sì, no, ci crede, purtroppo ci crede, dai, ci crede, ci crede. Marisa, provincia di Cuneo, dai. Crociani, buonasera. Dimmi. Io lavoro con gli algerini e vedo come trattano le donne, ma non le trattano male nella loro testa, sono le donne che si lasciano trattare male. Io ho una collega, l'ho trovata dopo due anni fa, aveva il caschetto, le mesh rosse, l'ho portata con me il lunedì dopo gli attentati di Parigi con il velo nero a fare shopping. E mi ha detto che si è convertita due anni fa. Il velo nero come? Il velo che fino con gli occhi? No, quello che copre il viso, il collo, però mi ha anche spiegato che il corpo è diviso in tre parti. Vabbè, ma ragazzi, ma ripeto, ognuno può fare, ma ognuno può fare quello che vuole, basta che non intralci la libertà degli altri. Basta che lo faccia lei, ma se lo fa per via del marito e del figlio. Vabbè, ma uno se vuole accettare imposizioni, dominazioni e cose di questo tipo, accetti le dominazioni e le imposizioni che vuole, basta che non si violi la legge e tutto. A me questo tipo di società non piace. La società, che è quella sostanzialmente islamica e anche di altre religioni, ma ormai largamente minoritaria in altre religioni. Sono islamici quando vogliono. Quando non vogliono, io con loro ci lavoro. Ah, non c'è dubbio, bevono, mangiano e fanno qualsiasi cosa. Stelle, vabbè, ma questo gli piace l'ovetto di paglia, purtroppo, e poi il cochon gli fa un po' schifo. Purtroppo, no? Marisa, esistono anche i cattolici super praticanti che poi in realtà se fanno 4-5 famiglie e hanno 5-6 amanti da questo punto di vista. Cioè, certo. Le contraddizioni esistono in tutte le religioni. Gianni da Modena, dai, Gianni. Buonasera. Dimmi. Volevo solo dire una cosa. Qui c'è molta ipocrisia, sì, perché abbiamo, su che cosa? Sul mondo, sì, che diceva che non mi piace. Qui non c'è il problema di islamici e quant'altro, qui c'è il problema di soldi, profitti, eccetera, eccetera. Anche, Obama sì, e Hollande sono stati quelli che hanno anche foraggiato i gruppi islamisti in Siria contro Assad, perché ero schierato con Russia e Iran. Sì. L'Arabia Saudita sono dei sheikh, il re dell'Arabia Saudita, i sheikh di Qatar, sono dei figli di puttana, assassini, terroristi, che andrebbero tutti tagliati la testa insieme a Erdogan, che ha battuto l'aereo russo. Sì. Ok, non perché Putin è un figlio di puttana anche lui, ma vabbè, sono tutti figli di puttana, che dobbiamo fare? Erdogan, chi resta, Erdogan, scusa Gianni? Erdogan è un assassino che dovrebbe essere sgozzato. Cioè, Erdogan è un assassino che dovrebbe essere sgozzato? È un assassino, dunque. Ma adesso, insomma, francamente, questo sgozzato non lo so. Comunque, certo, la Turchia ne sta combinando di cotte di crude, non c'è dubbio. L'ISIS è responsabile di un criminale che dovrebbe anche che andare a fare il G20. No, ma infatti queste sono le grandi ipocrisie. Come, lo voglio riciclare come uno che lotta contro. No, ma hai ragione su questo, hai ragione che perfettamente. No, è vero che per anche oggi Hollande, di fronte a questa cosa gravissima dell'abbattimento dell'aereo russo, ha detto sì, la Turchia sbaglia, però no all'escalation, insomma, nessuno. Cioè, alla fine. Ma Hollande è lo stesso che oggi ha detto che non interverrà via terra con i suoi uomini, quindi voi dei grazie di guerra è. Ma sì, ma infatti cioè, alla fine la cosa incredibile è che alla fine l'unica guerra a questo califone qui la stanno facendo i signori curdi, gli unici che stanno facendo la guerra via terra. Tutti gli altri, all'uomo con la barba, al califfo, Gaspare, Salvini, vabbè, questi l'ottimo che devono fare. Hollande, anche lui dall'alto bombarda, non è che manda i suoi uomini lì. No. È come no? È no, guerra, è no, però, ho detto, è no. Purtroppo ma si fa in altro assolutamente, modo. Assolutamente, assolutamente. Eh? Fermi lì. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Crociani, anch'io non mi pulisco il culo quando sono in giro. Si va di carta igienica coi fazzoletti e chi se ne frega del resto. Siamo uomini e ci teniamo la mutanda sporca. Crociani, sei un pezzo di ingrasciato, ogni tanto fattirlo, bede. Che poi in siciliano significa fatelo il bidet. Parenzo, non so se hai notato prima quel rumore. No, cioè, sì, c'è un signore che ha mandato, che ha mandato, ti giuro, il rumore bello. Vabbè, d'altra parte anche tu spesso in diretta sei andato in bagno, hai fatto sentire il rumore e poi hai tirato la catena del cesso. Scusa, io facevo soltanto sentire in segno di protesta lo scarico del bagno. Qualche, lui quando, ha aggiunto anche la pipì, ha aggiunto che la pipì. Vabbè, invitavi che io reputavo di malfamato, qualche ospite malfamato, vabbè, dai, e tiravo lo sciacquone in segno di protesta. Era una manifestazione pacifica, lui, e non violenta. Tu puoi tirare lo sciacquone, l'ascoltatore non può far il sentire il rumore che fa in bagno. Era uno sciacquone quasi, non dico intellettuale, però ricercato. La merda d'artista, la merda bravo. D'artista, te la ricordi? C'è la differenza, merda. Bravo, come no? La merda d'artista, bravo. Esattamente. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ecco l'altro, Mughini, ecco l'altro. Non mi toccare Mughini. Ecco l'altro. Non mi toccare Mughini. Beh, però bisognerebbe iniziare una serie di rumori. Cioè la gente dovrebbe mandarci sempre al 393. Già lo fanno. I rumori, no, poche mi volte. Mi pare che già lo facciano, insomma, non vanno istigati ancora di più, mi pare, no? Io proverei a chiamare la signora, com'è che si chiama? La signora Silvia, Silvia, mi sono pure scordato. D'albergatrice. Salvi, Salvi. La locandiera. Sì. Di Sondrio, non so dov'è. Vicino Sondrio, vediamo se risponde. Buonasera. Sì, cercavo Silvia, buonasera. Buonasera, sono io. Salve, sono Cruciani, Radio 24, come stai? Bene, grazie. Tu hai detto, una donna italiana ultimamente si vuole fare violentare con i tacchi a spillo e la minigonna. Ma che significa? Lo penso, ma tra virgolette mi hanno un po' tagliato, diciamo così, la frase. In che senso, scusa? Perché, diciamo così, il discorso era un po' più complesso, ma mi hanno estrapolato, tra virgolette, una frase, per cui... Ma non mi sembra estrapolata, scusi, io l'ho sentita quella frase lì, non mi sembra tagliata. No, in questo caso, no, in questo caso, allora, quella frase non è tagliata, ma c'era un discorso sotto. Nel senso, alla fin fine mi hanno chiesto in questo caso sul mio abbigliamento, mi hanno chiesto in questo caso se nella mia vita è cambiato qualcosa, tutte queste cose qua. Sì. E poi mi hanno chiesto naturalmente sul fatto del rispetto che ho in questo caso nel maschio, diciamo così, musulmano. E da lì poi si è passato in questo caso a il, diciamo così, portare minigonne e quant'altro, e soprattutto sulla violenza di certe persone, in questo caso appunto. Però Silvia, scusami, io non... Ma lei non porta più minigonna, signora Silvia, giusto? Ma io sinceramente per una cosa o per l'altra non l'ho mai portata. Però scusi, io ho detto, come si fa a dire che ultimamente la donna italiana si vuole fare violentare portando i tacchi si a spillo? No, si vuole, no, in questo caso si vuole troppo mostrare, la femminilità la stanno mostrando troppo e volgarmente in questo caso. E dunque questa cosa qui provoca la violenza secondo lei? No, assolutamente. Come no, quello che lei ha detto. Però in questo caso... In questo caso noi cerchiamo, tra virgolette, il rispetto, quando alla fine il rispetto per il nostro corpo non lo diamo. Beh, a parte che su questa cosa si può discutere, ognuno va vestito come vuole. Ognuno, diciamo così, fa della propria vita ciò che vuole. Quindi... No, ma d'accordo, ma lei ha detto un'altra cosa, che è quasi un invito allo stupro. Cioè, si è una donna che gira con i tacchi a spillo, i minigonne, in maniera molto esplicita, mostrando delle parti del proprio corpo. Allora, ripeto, la mia frase è partita semplicemente... No, la frase l'ho sentita benissimo, si vuole fare violentare, così lei ha detto. Ripeto, la mia frase è stata, tra virgolette, tagliata perché era una lunga come non so cosa... Ma io non mi sembra, lei sta dicendo una cosa grave, lei sta dicendo che ogni tanto le donne cercano rispetto quando non lo danno, in questo caso a se stesse. Noi in questo caso abbiamo avuto, diciamo così, un piccolo problema in albergo con una ragazza. Ripeto, purtroppo non dico in che senso, non scusi. È stata colpa, c'è stato un problema con un ragazzo. In questo caso il ragazzo sinceramente ci ha provato con una persona, ma in questo caso la persona non era una stinca di santa? E dunque? Non ho capito, scusi. Il ragazzo era immigrato? Sì, certo. No. Cosa sì, certo. Grazie, buona serata. No, sì, certo, nel senso... Ma perché ha attaccato? Non ho capito. Cioè, perché ha attaccato? Attaccato perché tu a un certo punto hai detto che hai dato quasi per scontato che fosse un migrante, un immigrato. Non per scontato perché ospitano gli immigrati in albergo, mica ho detto che per forza. Perché per te ormai ogni cosa. Ma non cosa dire cazzate. Dice, guarda, comunque questa qua si arrampicava sugli specchi. È stato un migrante. Ma non dire puttanata. Che scatta il non verde. Giustificare l'ingiustificabile. No, cioè, ma questa non qua. Non c'è da giustificare. Ecco, appunto, questa qua al detto delle puttanate ha cercato adesso di arrampicarsi dicendo. Arrampicarsi sugli specchi dicendo è stato tagliata. C'è un po' di pregiudizio anche in te nel dire subito il migrante è stato il migrante. No, ma per, semplicemente perché però quell'albergo lì è una ospita gli testa, immigrati. Dai, ma adesso diceva testa, delle cose mi hanno tagliato come se fosse stata manipolata. Non è stato manipolato una mazza, niente. Dai, su. Ho rivisto benissimo le immagini, non è stato manipolato un beneamato cazzo. Dai. Nicola da Trento, vai Nicola. Per fortuna che è riattaccato e per fortuna che si è reso conto che era indifendibile quello che stava dicendo. Dopo 200 anni stiamo ancora parlando se una ragazza ha o meno il diritto di vestirsi come diavolo vuole. Sì, ma non è un caso che questa persona qua sia islamica di religione, eh? Cioè io voglio dire, il fatto che una persona dica, per carità, anche una persona non islamica dice che ci sono troppe scostumate in giro, ma no? Ma se l'ha detto uno che ha chiamato prima, scusa. Sì, ma non è un caso che però venga dalla religione, infatti le religioni, il problema è... Ma quello non viene da nessuna religione islamica, quello gli viene da Venezia. Era cattolicissimo, ha detto di essere credente, ma... cattolico e tutto. Dai, su. Che il problema sia nella religione possiamo essere d'accordo, ci sono i cretini in ogni religione, alcune religioni. Vabbè, allora Nicola, che vuoi dire? Che è vergognoso che in una democrazia si pensi ancora che una donna non ha il diritto di vestirsi come diavolo vuole. Vabbè, ma infatti perché quella si è convertita, che dobbiamo fare? Sono contento che l'abbia riattaccata perché si deve vergognare. Sì, parlata non sapeva cosa dire, ha detto in questo caso 40 volte, in questo caso, là, non mi ricordo. Beh, forse l'ha capita, sai che ha detto una cazzata. Sì, forse, infatti, secondo me ha capito di aver detto una boiata e non sa come spiegarlo. Adriano da Caserta, vai Adriano. Salve, allora, io brevetto, mi scuso un attimo perché sono in mezzo alla strada, quindi sentite rumori di macchine. Però io... non sentiamo niente, sembra che stai, a casa tua tranquillamente, in quel di Caserta. Caserta, non sono mai stato a Caserta. Forse meglio così. Perché dici? Ora, ma non gettare fango sulla tua città, che c'è no, a Caserta? Non è che non gettare fango, però obiettivamente ci sono delle cesso, cose che dici? Non vanno. È un cesso, no, questo no, c'è di peggio. Comunque io non volevo parlare di questo, ma volevo parlare della questione che abbiamo... Beh certo, diciamo che Caserta non è proprio il posto dove vorrei abitare, per carità. Cioè, vabbè, ognuno c'ha i suoi... Anche tu mi sembra però, l'hai detto. Non è che... Ma sì, diciamo che ci abitiamo tanto per... Comunque, volevo parlare della questione delle gonne. Vabbè, ma non trattiamola così male, subito. Scusa, hai iniziato tu però, amico mio. Cioè, la legge di Caserta che comunque, è meravigliosa. La legge di Caserta è fenomenale, finché... La legge di... Sei tenuta poi col cazzo. Le chiavi, però... è tenuta col cazzo, hai detto, sì. Le chiavi della legge però ce l'avevano pure cani e porci. Cosentino. Cani e porci. Sì, vabbè. Sì, potevamo averla chiunque, le chiavi. Vabbè, non toglie la bellezza del posto però, su, dai. Ci vivresti a Caserta tu, Parenzo? Vivresti a Caserta? Io, amico mio, vivo tra... l'asse Roma-Milano, quindi no, vivo a Roma, Milano, ormai. Milano. Una l'asse volta Roma, ho vissuto a lungo nell'asse Roma-Milano, poi vado in asse a Siena. Roma-Milano, ma come parli? Nell'asse Roma-Milano. Che si chiama così? No? Ah, beh, l'asse Roma, come lo chiami tu? Vai, nella Adriano, tratta. Vai. Sì, ma sì, no. Il problema di Caserta è che ha solo la regia effettivamente è bella, però per il resto non è bruttissima. Il problema è che per l'appunto la gente che ci abita spesso è un po', diciamo, colorita. Vabbè, Adriano, però che dove è colorita? Insomma, per usare una parola, un eufemismo così, colorita, dai. Insomma. Non posso mai dire che sono dei... Prima o poi parleremo di Caserta, bene. Adriano, dimmi, sì, adesso, che volevi dire? No, volevo dire per la questione delle gonne, non gonne, eccetera, eccetera. Per me è assurdo che si facci passare determinate cose come... Cioè? È bene che le ragazze vadano in giro così, è assolutamente falso. Cioè, in che senso? Scusa, spiegami. Ti spiego. Allora... Cioè, non ho capito, le donne devono vestirsi di più. Caso, è sbagliato che vadano in giro con le minigonne oppure svestite con le cosce di fuori o con le tette di fuori, non ho capito. Sì, perché se no... Perché istigano la violenza, la violenza. No, però uno schiaffo sul culo ce lo diamo. Cioè nel senso, ma glielo dai tu uno schiaffo sul culo? Glielo do io, va bene, ma glielo dai tu? Glielo voglio dare io, va bene, glielo voglio dare io. Ma che sei impazzito, sei? Cioè se una donna gira col culo di fuori sei istigato a dargli uno schiaffo nel culo, ma quella là ti denuncia, certo. Ma farebbe allora bene denunciarti se allora sai che faccio? Io spintono un mio amico finché non lo faccio incazzare mi do uno schiaffo, è la stessa cosa. Ma non capito, Adriano, ma sei impazzito, non ho capito. Cioè le donne se mostrano il culo fuori, uno è autorizzato e spinto a dare uno schiaffo. Va bene, ma gli schiaffi sul culo si danno solo. Guardi che non è Radio Comeni questa, se tu mi istighi prima o poi uno schiaffo te lo prendi. Ma istichi non cosa? È Radio Califfo, ma istichi mio, che? Non è Radio ma Califfo istichi cosa? Qua. Ma istichi cosa? Perché? Ma non è mascherismo, ma è un eccesso. Quando si va ma eccesso di cosa? Ma, di... ma allora, tu quelli che sono mondo, violenti, quelli che sono violenti, amico mio, quelli che violentano le persone o che vogliono dare le pacche sul culo alle donne senza autorizzazione, quelli che vogliono fare battute o cose del genere. No, ma non è che sono degli stronzi. Se ne fottono che uno c'ha il culo di fuori, c'ha le tette di fuori, lo fanno a prescindere. Ma non è vero, perché se tu non sei istigato a fare determinate cose, non le fai. Ma è normale, ma come tutti nel mondo, come tutte le cose, gli eccessi fanno male. Quando fai troppo, dalle mie matrici fai la cacca fuori dal cesso. Sì, ma, quindi, ma perché non pensi? Allora, perché per gli uomini, per gli uomini non vale questa cosa? Infatti, ma vale per tutti, anche per gli uomini. Cioè, però, dobbiamo essere tutti più sobri, insomma, dobbiamo tutti essere un po' più vicini agli stili del califfo, diciamo, no? un po' più vicini a quello che succede nel califfo. Si chiama eleganza. Però eleganza, vabbè, al di là di questo, eleganza. Ma vabbè, che ormai so che non va. Però, ragazzi, ma non è questione di questo, non bisogna dire puttanate, però. Però cioè. Non bisogna neanche cedere. Ma che vuol dire l'eccesso? Fa parte di questo mondo, per fortuna, dell'Occidente, della ricchezza, del capitalismo. Certo, l'eccesso, viva l'eccesso, viva l'eccesso, viva l'eccesso. Abbasso Khomeini, abbasso i fondamentalismi, abbasso le religioni, abbasso i bigottismi. Viva qualcos'altro, non lo posso dire, lo dirò un'altra volta. Quello che è, dai, su, ciao, vattene, non ne posso più. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara? La zanzara. Anche viva la musica rock anche satanista, anche questo c'è nell'Occidente, certo. Andare a un concerto dove si canta una canzone, peraltro anche un po' non particolarmente seria, in cui si invita a baciare il diavolo. Anche questo è l'Occidente. Ma ci mancherebbe altro, cioè. Non questi qua che chiamano dicendo che la donna non si deve far vedere. Per carità. Non deve mostrare il culo, le chiappe, le tette. Va di retro. Antonella da Vicenza, dai. Sì, buonasera. Dimmi. Io volevo semplicemente dire che mi sembra il solito vecchio discorso del controllo del corpo delle donne. Cioè, ci sono qui anche tra gli ascoltatori questi atteggiamenti di voler predatori. Predatori? Ma che vuol dire? Che vuol dire? Sì, vedono le donne come delle prede. Vabbè, dunque? E si sentono autorizzati a comportarsi come dei cacciatori nella savana, per cui non importa che la donna sia svestita o vestita, infatti ci sono tantissime donne che sono vestitissime e vengono violentate lo stesso. Ma certo, assolutamente. Quindi il problema di queste persone, che anche tra gli ascoltatori che fanno tutti questi discorsi della provocazione o non provocazione, cioè io li esorterei molto umilmente a fare un esame di coscienza, dov'è il problema dentro di loro, prima di andare a dire che sono le donne che provocano. Questo mi sento di dire. Ciao Antonella, ciao. Allora, caro Parenzo, è con noi. Eccoci. Un personaggio che tu conosci bene, perché quello che era il suo capo, diciamo, che adesso non c'è più, è deceduto, è morto, l'hai ospitato più volte nelle tue trasmissioni. Ah, ho capito, tanto tempo fa, personaggio incredibile. A Tele Lombardia. Chi lo seguiva sempre è un, come si chiama quel personaggio lì, quello del crocefisso che voleva togliere tutti i crocefissi? Smith. Che cos'è che fece col crocefisso? Non Adam Smith, che invece era un grande liberale. Oh, dai, con sta voce, su, dai. Adam Smith era un grande liberale, ti ricordi, no? Sì, Adam Smith, allora. Ecco, invece quello era era scozzese di origine, mezzo scozzese, abruzzese, e andava in giro nelle televisioni all'epoca a Tele Lombardia a fare il predicatore islamico. Sì, no, ma che cosa fece col crocefisso? No, lui no, niente, scrisse dei libri contro Oriana Fallaci. Non dire stronzate, fece una grande battaglia per togliere il crocefisso. Ah no, cose, a porta a porta, certo, scusami, come no? A porta a porta definì il crocefisso, io non lo ripeto perché è fortemente offensivo. Com'è? No, non lo ripeto perché vabbè, dimmelo, l'ha detto lui, no? Come lo definì? Non mi ricordo. Ma chiediglielo al suo ex sodale, come si chiama? Allora, suo... Massimo Abdullah Zucchi, ciao Zucchi, come stai? Buonasera, grazie. Ciao Massimo. Bene, grazie, ciao. Grazie. Com'è che lo definì il crocefisso? Ma è un'espressione ingiuriosa, che su cui, un'espressione detta da lui. Io non... Ma com'era? Ma giusto per ricordare, ma che c'avete paura? Cadavere, oh, ma che siete matti? No, no, cadavere in miniatura. Cadavere in miniatura. Una bestemmia praticamente. Un cadavere, beh, la stessa cosa che disse in realtà Olivero Toscani. Non è una bestemmia, perché il crocifisso è quello, soltanto che è un'espressione irrispettosa tutto qui. Molto irrispettosa. Se dicessero la stessa cosa di Maometto o di Allah, certo, sarebbe molto grave, no? Come io ho detto altre volte difendendo, certo, il fatto che fosse bestemmia. Comunque, ma che c'entra? Quella è una credenza, ma scusami, scusami un attimo. Adesso non dobbiamo fare a spero la trasmissione su Smith, che anche è morto. Cioè, no, per carità, assolutamente, però. No, l'espressione il cadavere, il crocefisso è un cadavere, ma la potete ripetere perché non l'ho capita bene, scusate, ripetetemelo. Cadavere in miniatura. Un cadavere in miniatura, ma tu la condividi questa cosa? No, non l'ho mai condivisa. Però questo lo dici adesso, amico mio, all'epoca sicuramente la condividevi. La frase è uscita, non è uscita concordata preventivamente con me. Però io in quel momento io... Senti Zucchi, in realtà tu ti chiami... No, assolutamente, tu ti chiami Massimo Abdul Haq Zucchi. Quando è che ti sei convertito? Haq, com'è che si dice? Abdul Haq. Haq, sì, con la H aspirata forte. Nel 91. Nel 91. Ma è vero che c'è un passato delle Brigate Rosse? Il nome sì. No, ho militato nella sinistra extraparlamentare. Non delle Brigate Rosse? No, Brigate Rosse, non lo so. No. Eri vicino a gruppi armati? Gruppi armati dell'estrema sinistra? No, no. Qualche condannuccia l'hai avuta o no? Non ho fatto, non intendo parlare di questo perché è roba di 30 anni fa, non mi pare. Vabbè, ma così per inquadrare, mica era per niente. Ho militato nei gruppi dell'estrema sinistra, senz'altro. Questo penso che possa bastare. Sì, no, per carità, ma è vero che vuoi querelare chiunque, cioè il giornale, per esempio il giornale, vuoi querelare il giornale, perché? Che ha fatto il giornale? No, il giornale l'ho già querelato. Ma perché cosa? Spiegami. Beh, il giornale ha scritto Islam assassino. Beh, insomma, hanno ammazzato in nome dell'Islam i signori a Parigi, non in nome di Gesù Cristo. Sì, eh? Ma possono indossare qualsiasi maschera vogliono, è impossibile che siano musulmani. Non l'abbiamo perché è impossibile detto. Che siano musulmani? Perché il musulmano si definisce non da uno come si chiama, si definisce dal comportamento. Se uno fa comportamenti non islamici non è un musulmano, chiunque sia che l'abbia fatto. Punto. Chiunque sia, dunque in realtà è solo una parvenza quella roba lì, è solo un mantello che si mettono, poi in realtà sotto c'è tutt'altro. Esatto, c'è tutt'altro. E perché non ho capito, allora scrivere islamici, com'è che hanno scritto Islam assassino, com'è che hanno scritto? No, Sallusti ha scritto Islam assassino e poi ha scritto questa civiltà inferiore. E tu l'hai querelato, pure Sallusti ha querelato? Certo, Sallusti, immagini tutti all'am. In tribunale, tutti. Tu un islamico, un imam che inneggia la violenza in Italia non l'hai mai querelato, però non sei mai andato in tribunale a portare o a denunciare ma qualcuno, io... mai. Invece Sallusti e il giornale va bene. Sallusti e il giornale che definiscono. Sallusti sta scritto, io non ho mai sentito. Ma civiltà inferiore ma uno. Lei denuncerebbe se venisse a conoscenza di un combattente dell'ISIS che passa per una moschea, lo denuncerebbe alle autorità italiane? Certo, molte dice di no, molte dice di no. Intanto non l'hai mai fatto, però nei confronti di qualche... Ma io non ho mai visti questi combattenti. Nessuno no, l'ha mai visti, combattente no, ma un imam estremista, ne sono stati espulsi tanti. No, imam estremisti che frequento io non no, ho mai frequentato. Nessuno ha mai visto nulla. Mai capitato. Nessuno ha mai frequentato nessuno, per carità. Io non... No. Ma lei che imam frequenta? Cioè, quale moschea? Io adesso frequento la moschea di Segrate. La moschea di Segrate? Ci dobbiamo fermare un attimo, perché Massimo Abdul Haq Zucchi è un personaggio molto interessante, dice delle cose in cui crede ovviamente, ma che secondo me sono assolutamente contestabili. Tra l'altro è un grande ascoltatore della Zanzara, ma siccome non può ascoltare la musica, quando noi mandiamo in onda i pezzi, che succede, Massimo? Abbasso il volume se posso, anche se spesso sto guidando non posso farlo. Abbassa il volume perché non può ascoltare la musica, ragazzi miei. Brucido. La Zanzara. Io ho parlato con marocchini, tunisini che la musica la vogliono. Peggio per loro, perché chi ascolta la musica il giorno del giudizio Dio gli verserà piombo fuso nelle orecchie. Se a loro va bene così. Buonasera, sono Massimo, sono un italiano convertito all'Islam come dite voi. Che in realtà non è l'espressione esatta, perché nell'Islam si dice e non convertito, ma si dice ritornato, in quanto essendo l'Islam religione naturale, tutti gli uomini, tutte le donne quando nascono, nascono musulmani, poi diventano, rimangono musulmani se sono educati da musulmani, diventano qualcos'altro se sono educati ad altre religioni. Volevo dire una cosa abbastanza importante, che la pronuncia della nostra religione che voi fate tutti, cioè Islam, è sbagliato, perché si dice Islam. Sarebbe bene non storpiare anche il nome del profeta, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, che non si chiama Maometto ma si chiama Muhammad. Allora, le voci che avete sentito sono di Massimo Abdul Haq Zucchi. Scusi se pronuncio male, signor Zucchi. Non c'è problema. Parenzo, ma io non mi sono accorto di essere nato islamico, però, devo dirti la verità, al contrario di quello che dice il signor Zucchi, che tutti siamo nati islamici. Adesso, vabbè, va bene tutto. Io sono ebreo e questo è confermato. Come si fa a dire una cosa del genere? Che vuole. Ma no, ognuno crede quello che vuole. Ma d'accordo, ma come credere alla cosa? Come credere agli otto volanti? Dai, io ho tanti amici islamici che non la pensano come Massimo Abdul Haq Zucchi, l'ottimo, che anzi va benissimo. Ma scusi, Zucchi, secondo lei l'Islam conquisterà il mondo? O l'Islam, Islam. Come dice? L'Islam, scusi, Islam. Perdoni. Islam. Conquisterà il mondo è una frase che significa? Conquisterà il mondo, cioè lei vorrebbe il mondo tutto fatto da islamici? I califfi. No, tutto fatto da islamici, governato dalla legge islamica sarebbe la cosa migliore. Tutto il mondo governato dalla legge islamica, va bene. Un giorno probabilmente succederà. Ma dove succederà? Prima della fine del mondo succederà, no, è previsto. Ma speriamo di no, caro Massimo Abdul Haq Zucchi, speriamo di no, saremmo tutti rovinati, amico mio, non credo che staremmo meglio, le donne sarebbero dominate dall'uomo, represse, eccetera, eccetera. Beh, così, amico mio. Queste sono le favolette che vuoi raccontare. Come le favolette? La realtà in molti paesi islamici, Lei è sposato? Sì. Perché bisogna chiederlo a questo punto, quante mogli ha? No, una. Una sola, perché in Italia non si può, però se italiana fosse italiana anche lei. Se fosse anche lei ritornata all'Islam. Esatto. Convertita, io Islam, dico. Islam, sì. Islam, scusi, sì. Scusi, signor Zucchi, però ma lei che lavoro fa, signor Zucchi? Ecco, tra l'altro, sì. Che lavoro fa? Rappresentante. Prima faceva i materassi, che era materassaio, che faceva? No, mai fatto il materassaio. Materassaio. Comunque sì, qui risulta che lei in realtà appartiene alle Brigate Rosse, una colonna delle Brigate Rosse, nessuno l'ha mai smentito. Per carità. Cioè, ma comunque chi se ne frega, roba vecchia. Beh, sai. Ma è roba vecchia, che c'entra? Sì, roba però vecchia. Il fondamentalismo è roba vecchia, roba vecchia. Cioè, quando uno diventa torna all'Islam, lo fa per diventare qualcos'altro. Sì. Quindi si lascia alle spalle il passato. Tutto il passato, quindi certo. Più il passato è, diciamo, pieno di peccati, e meglio è, perché i peccati vengono trasformati in buone azioni in un momento. Però scusi, signor Zucchi, io voglio capire una cosa. Lei, tu sai che rimase famosa la rissa col signor Pelanda, no? Con Zucchi e Pelanda e Smith. Vabbè, adesso questo fa parte anche della, se volete, della storia della televisione. Pelanda, però la cosa incredibile è che lei non ha mai, ripeto, e poi chiudiamo su questo argomento qua, lei non ha mai denunciato, risulta, no, che non ha mai denunciato un estremista per parole che si avvicinano alla violenza, eppure di estremisti islamici è piena l'Italia, ma invece adesso vuole denunciare il signor Sallusti. No. Signor Sallusti, perché per un articolo sulla civiltà inferiore, perché ha detto che la civiltà islamica è inferiore a quella occidentale. Il signor Sallusti e gente come lui, Magdi Allam, purtroppo ci obbliga, perché io avrei anche altro da fare. Magdi Cristiano Allam. Magdi Cristiano Allam. Cioè vale anche per... Qui sì. se lei è Massimo Abdul Haq Zucchi, sì, bene, lui è Magdi Cristiano Allam. Sì, come lo considera lei? Un traditore? Una cosa? Come lo considera uno che ha fatto la sua scelta? Appunto, come lo considera lei? E come lo considero? Peggio per lui. Peggio per lui, certo. Cioè. La sua scelta, certo. Beh, questo va bene, d'accordo. Non mi pare una... cioè, vediamo, fosse in un altro paese, gli taglierebbero la gola tranquillamente, senza problemi. Diciamo. Ma guardi, ha fatto una brutta scelta. Quello che è più brutto ancora, però, è che lui compie un'opera quotidiana di diffamazione dell'Islam. Lui è uno di quelli che sostengono, per questo è anche il motivo della denuncia. Denuncia pure, che il problema non è il terrorismo, il problema è l'Islam. Ci ha scritto anche un libro. Sì, assolutamente, ma è legittimo pensarlo. Anch'io la penso così, in parte. In parte anch'io la penso così. Ma siccome ogni pagina denuncia anche del me. Libro, ogni pagina. No, io non denuncio chi pensa, io denuncio chi scrive e chi scrive cose offensive e falsamente Vabbè, io non capisco questa cosa della musica. Questa cosa della musica, cioè, non, lei... è, non, è, non c'è scritta nel Corano, sai? No, però perché non si può ascoltare la musica? Io mi spiego. Abdallah Kabakebji, ascolta oddio, la musica. Allora, no, no. Ci hai fatto due coglioni così con sto Kabakebji. No, no, no, no, no, scusami. No. Abdallah Kabakebji. E vabbè, mi hai fatto due palle così. Ma me ne sbatto i coglioni di Kabakebji. Me lo fai diventare antipatico. Me lo fai diventare antipatico. Abdallah Kabakebji con la moglie. Me lo fai diventare antipatico. Me lo fai diventare. Prega 5 volte al giorno. Vabbè, pazienza, Abdallah. Uno se prega 5 volte al giorno ha qualche problema. Se prega 5 volte al giorno, non ha mai detto le cose della musica. Uno che prega 5 volte al giorno qualche problemino ce l'ha. Ma perché? Massimo, dai, scusami Massimo, perché sei lei contro la musica? Lei prega 5 volte al giorno, Massimo Abdul Hakzuki? Naturalmente. 5 volte, pure di più, quante volte? Ma... No, 5 bisogna per l'Islam. 5 per l'Islam. Va bene, quante... perché la musica non si può ascoltare? Questo che non capisco. Perché? Lo ha detto il profeta Muhammad sallam, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, per cui siccome il Corano dice il profeta non parla per capriccio o per sue esigenze personali ma parla ispirato da Dio, quindi chi si disobbedisce e al Corano e al profeta è la stessa cosa. Che succede? Ecco, che succede? Disobbedisce al Dio, quindi va all'inferno. Ho capito, ma lei ha detto un'altra cosa. Hai detto un'altra cosa, Massimo. Chi ascolta musica là verserà piombo fuso nel... il profeta, non l'ho detto io. Beh, ma l'hai detto tu la stessa. Che significa piombo fuso nelle orecchie il giorno del giudizio? È un'immagine, una metafora. Significa molto chiara, una cosa molto, che è molto chiara. Piombo fuso significa che muore, amico mio, muore, crepa. No, non sotto muore atroci... perché... No, non muore perché soffrirà eternamente nell'inferno. C'è cioè una cosa eterna, non è che. Ma per te la pena di morte è accettabile? La pena di morte in generale sei a favore della pena di morte? La pena di morte è accettabile soltanto in alcuni casi e in uno tipo? Stato dove si applicano al 100% le leggi islamiche, che questo Stato e dunque per esempio per che cosa vorresti la pena di morte? No, per quelle che sono previste per omicidio. Per cui sei d'accordo, morte, per sei d'accordo alla legge islamica applicata al 100% che prevede anche la pena di morte? Quando c'è uno Stato islamico. Quando c'è uno Stato, il diritto di ammazzare la gente se non c'è uno Stato islamico regolare. Con come si fa? Io dico, come si fa oggi in Italia? Capisco che passare dalle Brigate Rosse all'Islam può essere divertente come ideologia. Però sono, permettimi, dimmi. Sono o mi permetta se vuole. No, diamoci del tu. Mi stai pure simpatico, questo amici, è il problema, sì, capito? No, mi stai anche simpatico, questo è il punto. È simpatico perché è un estremista. No, mi stai simpatico perché la mente umana è talmente contorta che mi affascina, capito? Cioè sono affascinato dai contorsionismi della mente umana. No, mi piacciono le idee forti. No, mi piace la mente umana, analizzare la mente umana, uno che passa dalle Brigate Rosse all'Islam dicendo che va l'Islam ti dovrebbe far pensare. Ma non è vero. Io ho fatto tutto un processo molto lungo. Vabbè, come un liberale, mai nel Partito Liberale di Einaudi, però mai lì c'è passato. Un processo di conoscenza. Scusi, la poligamia è giusta? Mai passato per i radicali, la per i liberali, mai. La poligamia. Ma che ne sa lei? Vabbè, la poligamia è giusta o no? Fosse... Ma cosa ne sa? Vabbè, lascia perdere le forze. Anche aver votato, io ho votato anche per i radicali. La poligamia è giusta o no? Perché sono violenti. La poligamia è giusta o no, Zucchi? La poligamia è permessa dal Corano. E per te è corretto, è giusto o no? Quello che dice il Corano è automaticamente corretto. Ma come si fa a dire quello che dice il Corano è automaticamente corretto? Vado pazzo io, il Corano! Il Corano di riferimento qual è nel mondo? L'Arabia Saudita qual è? Perché nessun riferimento, nessuno. Ma ci sarà un modello, lo Stato che più si avvicina oggi alla teocrazia che lei vorrebbe? L'Arabia Saudita, che ne so, l'Arabia. Il modello è il Corano e la sunna del profeta, questo modello. No, ho capito, no, ma la poligamia è accettabile? Perché è accettabile la poligamia? No, il califfo. Perché? È applicato. È una cosa lecita, anche se sconsigliata. No, sconsigliata da te, ovviamente. Cioè, no, dal Corano. Ma che sconsigliata, sì. Certo che sconsigliata. Vabbè, ma quali sono le cose positive della poligamia? Però adesso tu la condividi la poligamia, dai, non la applichi perché sei in Italia, ma la condividi. Perché che cosa ma c'è di positivo? Non è questione di condividere, è questione che in determinate circostanze, occasioni, casi della vita è lecita, ma è lecita a determinate condizioni. Tipo? Le mogli vanno trattate tutte la stessa maniera, hanno bisogno, ognuno ha diritto a avere un appartamento separato, quindi ci vogliono condizioni economiche molto particolari. Appartamento separato, sì. Appartamento e via dicendo. Sì. Senti, ma la sodomia è permessa nel Corano? No, ma no. Ma non è permessa nel Corano la sodomia. Neanche nel cristianesimo. Però è praticata largamente. Non mi risulta. No, perché non se ne curano nel mondo arabo. No? Cioè, guardi, cerchiamo di evitare queste espressioni volgari. Io... scrutani, saranno... li sento tutti i giorni, se le fai tu, però non mi coinvolgere in questa... in queste espressioni volgari, preferirei. Ma non è questione di espressioni capisco volgari. Le dici tu e non le dico ho detto io, la sodomia, ho detto la sodomia. È più che sufficiente, no? Sì, ho capito, però per passare ad altro, sto dicendo la pratica sodomitica, diciamo, usiamo questo. Benissimo, volgari. A me non risulta, poi magari sarà nel mondo arabo la pratica sodomitica, diciamo così, non è abituale, cioè non è utile. A me però non risulta. Abituale proprio no. Una pornostar che una islamica che fa la pornostar, una nata che c'è, cos'è? Una peccatrice? Marocco, c'è una famosissima. Mi sembra, penso proprio di sì. Cioè, va, che gli va fatto a questa qua? Che le va fatto? La signora Califà. Non mi faccia ottimo. Fare il giudice. Io le dico è vietato e non si fa. Basta. È vietato e non si fa. Però è vietato nulla di grave. Non si può fare i film porno. Dimmi te se un paese. Se un paese ma loro non lo guarderanno. Io sono per fare i film porno, ovviamente, ma non mi interessa niente. Ma rispetto chi non li vuole guardare. Questo è il sottile differenza tra i liberali e i non liberali. Per esempio, si può fare sesso durante il ciclo? Le religioni liberali non esistono. Si può fare sesso durante il ciclo? Non mi sembra che in Israele non ci siano pornostar. In Israele ci sono anche i marciapiedi per gli uomini e i marciapiedi per le femmine, quindi figuriamoci. Però ci sono si può fare sesso durante il ciclo? No. Beh, quello anche in altre religioni si può fare. Sì, ma è una cosa normale secondo voi? Cioè, ma se uno ci crede lo può fare, ma basta che non disturbi gli altri. Tu non lo fai, Parenzo? Non lo so. Ma io che ti frega? Io non sono religioso. Non sei religioso, ecco. Bene, non sono così religioso io, ovviamente, ma che rispetto chi fa. Qual è una cosa positiva della poligamia, Zucchi? Ma in alcuni casi storici si rende quasi necessaria. Nella Germania del dopoguerra, dove praticamente non c'erano più uomini, sì, il governo tedesco fu obbligato a fare una legge che acconsentiva alla poligamia. Non c'erano più uomini. E quindi, ma non c'era nessuna poligamia in Germania, non è vero? No, è vero, c'è stata una legge per un breve periodo, una volta la storia la insegnava Paolo Mieli, adesso Massimo Zucchi. Ma non è vero, non c'è stata nessuna. È roba incredibile, la storia la insegna Mieli, non Zucchi, Mieli la insegna. Mamma mia, siamo a posto, siamo a cavallo. Sì, Mieli la insegna. Se la insegna Mieli invece che professore di storia dell'università. È un professore di storia Paolo Mieli, cresciuto alla scuola grande di Felice. Adesso non fai. Ma non può Massimo Zucchi insegnarci la storia, scusami. Ho citato l'esempio della Germania. In qualsiasi paese, quando domani ci fosse una guerra e non ci sono più uomini, non sai che si possono lasciare milioni di donne da sole, insomma, no? Questo è un esempio occidentale. Massimo, ti consulterò spesso, ciao, grazie. Buonasera ciao. A tutti. Ciao, ciao, ciao. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. La Zanzara. Allora ragazzi, andiamo a Udine. Fabio, dopo aver sentito l'incredibile Massimo Abdul Rak Zucchi, non so come si chiama, Fabio da Udine, vai. Quello veramente incredibile. Ciao Luciani, ascolta, volevo raccontare una vicenda che è successa a un collega. Sì, collega di che? Collega di che? Che non è cattolico. No, ma collega di che? Di quale mestiere, Fabio? Camionista. Beh, grandi, sempre i camionisti, sempre al top i camionisti. Ragazzi, saluto tutti i camionisti italiani, amici miei. Saluti. Collegatevi sempre con la Zanzara dalla mattina alla sera. Fai un annuncio anche tu, Fabio. Camionisti italiani. No, devi dire così. Camionisti italiani. Ascoltate la Zanzara perché siete la vostra compagnia ed è una radio senza filtri. Aspetta, amico mio, Fabio, fallo bene. Aspetta, appena ti do via, devi dire così, amici camionisti, sentite tutti la Zanzara, fai come te pare, vai, via. Amici camionisti, ascoltate la Zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato. Non c'è niente di... Lascialo stare, complottato. Ha ragione, lascialo tranquillo. Va bene Fabio, vai, allora dimmi, che mi volevi dire? Allora, un collega praticamente greco di un'altra religione che non è cattolico e si è sposato con un'italiana, una bella donna, veramente una bella donna, e usa vestirsi sempre con minigonna e decolleté. Poi la moglie lo accompagnava sempre al lavoro, quindi immagina mezzo ai camionisti. E noi gli facevamo sempre i complimenti, complimenti veramente alla bella donna, si fa guardare, lui sorrideva. Anche un po' spinti magari, complimenti, no? Sì, vabbè sì, ma lui non se la prendeva, anzi si vantava, no? Sì. Che aveva una bella donna. Dopo un paio di giorni l'ha riaccompagnato sempre in quella maniera, con la minigonna e le cose. un arabo davanti a tutti gli ha detto: cioè, tua moglie è una prostituta, una buona a nulla, e gli ha detto tutti i colori. Lui si è incavolato come una bestia, l'ha preso per il petto e gli ha detto: alla facciata tua, perché sei un invidioso, tu la fai solo guardare e io me la scopo. Sì, ma questo qua è, al di là di questa reazione, chiaramente, che tu ci hai raccontato molto reale, molto realistica, com'è nel tono della zanzara, Fabio, la realtà è questa, che purtroppo, diciamola tutta, Parenzo, per molti aspetti, non solo dell'Islam... Diciamola tu, tutta, no, io non so per, se per, condivido quella... No, per molti aspetti, trattasi di Medioevo. Trattasi poi ovviamente ma te l'ha spiegato, dipende anche dagli stati, no, dai paesi, bene, l'Islam in Arabia, ma no, in ma generale è così, però purtroppo ma non è così, vero, soprattutto nell'Islam. Un'altra cosa, dimmi Fabio, dimmi caro Fabio Camionista. Allora, a me è capitato più di una volta di vedere di spalle una bella donna con la minigonna di spalle, non appena si è girata, mi ricordo una vicenda di questa, mi sono accorto io, guardandola di viso, che era una ragazza di 14 anni, mi sono spariti tutti i pensieri magari erotici, chiamiamoli così, perché ho visto che era una bambina. Quindi non c'è nulla di male mettersi una minigonna, un decolteo. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Guardare. Dai, su, ma questa è quella, una follia venuta fuori da una ragazza che secondo me ha preso un colpo di sole su questa storia qui, cioè un colpo di sole. Fermi tutti. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Vabbè. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove stiamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Allora, intanto c'è un'ultima ora che viene da Parigi, anzi dalla Francia, caro Parenzo, con degli ostaggi a Roubaix. E anche numerosi feriti. Adesso non si capisce bene quello che sta succedendo, se sono cose che riguardano il terrorismo o altro. Roubaix nel nord, non sai, ma che cos'è la Parigi-Roubaix? Sai cos'è la Parigi-Roubaix? Certo, di che come cosa? La Paris-Dakar, famosissima. No, Paris-Dakar non c'entra una mazza. Che cos'è la Parigi-Roubaix? È una gara. Non guardare su Google, che cos'è? No, lo sto guardando, di moto Roubaix, un cazzo, Roubaix. Di ciclismo, capra, la Parigi-Roubaix, cazzo, una forse la gara ciclistica su sì, strada più famosa. Al mondo. Dai, su, il pavé. Vabbè, ma tu si sa che sullo sport non sei ferrato, su. Cioè, non capisco come fai ad andare d'accordo con il signor Cairo, tra l'altro. Comunque. Ah, lui sì, lui mi so che ha anche una squadra di calcio, mi pare. Forse ha una squadra di calcio. L'ottimo Torino, mi pare. Tu sai che mi hanno fornito un articolo. Io sono del Torino, tra l'altro, da sempre, anzi da prima della fondazione della città. Sì. Ah, sei del Torino, sei del, che leccaculo che sei, fai veramente schifo. Sai, tu sai che non ho mai. Però Torino ti piace, in questo momento ti piace. Una squadra l'Inter, io ti ho sempre detto l'Inter. Sì, però Torino adesso ti sta simpatico, diciamo. Beh, mi sta simpatici i colori. No, ma non guardo mai, lo sai, calcio non guardo mai. Vabbè. Comunque, sai, ragazzi, questo mi interessa il signor Pardo, che mi è molto simpatico, ma come persona. Allora, il signore di prima che ha parlato con noi, com'è che si chiamava? Non mi ricordo più. L'ex BR, eccetera. L'ex BR che poi si è. Sì, il signor Massimo Zucchi, no? Che è passato non al Movimento Liberale Italiano. Sì, l'hai già detta questa cosa. No, però sai, dà l'idea. Ma all'Islam radicale. Ma ha una forma di Islam radicale, perché io non ho mai sentito. Una volta ha scritto insieme al Fu Adel Smith, sempre Massimo Zucchi, questa cosa qui: l'Eucaristia è un rito satanico, infatti dovevo chiedere, me lo sono scordato. L'Eucaristia è un rito satanico e blasfemo che consiste nell'ingestione conseguita dalla deiezione di ciò che si crede sia quanto resta nella propria divinità. Che gentaglia, vero? Della propria divinità. Brutto, però, no? Non lo so, comunque è divertente. È diverso se è gentile. Sì, ma è gente che insulta, dai. Sì, attacca all'Eucaristia, che sono tutti questi riti strani. Ah, ecco qua, sì, ultimo, la presa di ostaggio. Ma perché non c'è stato un breaking news TG? Non lo so, del GR, non lo so. Sì. Facciamo noi, interrompi tu con la musica. Sì, facciamo breaking news, dai, fate la breaking news. La diamo noi. Breaking news. ecco qua. Allora, Francia, ostaggi a Roubaix, numerosi feriti. Ma come l'hai detto? Ci ecco sentiamo qua. Dopo. No, lo rifaccio io. Ma che fallo tu, fallo tu. Lo rifaccio io. Ma dai, sei matto. Dai, adesso stiamo. È una cosa seria questa qua. Comunque, no, dai. Capito. No, ma era solo per scherzare. Dai, sulla, dimmi, dimmi. Allora, falla tu, dai, rifacciamo. Voglio la musica, dai. Però. Breaking news. Breaking news. Ultima ora, allora, sono le 24 ore. Presa di ostaggio e spari a Roubaix. Ci sono feriti. Prossimi aggiornamenti del telegiornale. Veramente radio già, non è la televisione, capito, GR. Però era perfetto, tecnicamente, sì, voglio era, segnalare era a Marisoni un po' seriosa, sì. Che tecnicamente era perfetto. Ah, quando parte il TG? Mamma mia, come la sei la nuova... Ma no, vai a fare il culo. Quando dai. Parte il nuovo telegiornale? Sai Stefano che c'è un nuovo da TG? Bologna, dai, Stefano da Bologna. C'è un nuovo TG, tu lo sei, sai o no? Tu sei, sì. Quando sarà, parte? Sarà TG Parenzo. Partirà nei prossimi giorni. Possiamo dare un anticipo di sigla nei prossimi del giorni partirà qui alla Zanzara. Non possiamo TG dare Parenzo. Un anticipo. Io un però anticipino. Voglio dire una cosa. Tu sei veramente offensivo nei confronti di questa trasmissione, perché hai veramente rotto il cazzo. Cioè, se dovessi andare a condurre in televisione, ti cureresti ogni no, giorno. Ma no, no, no, aspetta, questa è una cosa che voglio dire, perché veramente oggi lo penso. Oggi lo penso. Ma non se è vero. Tu dovessi andare a condurre in televisione, passeresti la giornata a romperci i coglioni, a rompere i coglioni alla tua famiglia con unguenti, cose da ingerire, ma lo continuo a fare, guarda, acqua, che, eccetera. Ultimamente vieni qua, te ne sbatti i coglioni, ma io me ne sto anche a casa, sai, ma a riposarmi senza, amica, senza parlare, perché quando parlo giù, mi viene fuori di più. Sei io quando sciatto, vado ospite nelle sciatto, mi invitano ospite nelle trasmissioni e ci vado, e devono subire ogni tanto questi piccoli colpi di tosse. Ma non succede, nessuno sente mai un cazzo, dai, stai qui, eccolo qua, te ne fotti, non fai nulla, tossisci come te pare, vergogna, dai. Stefano da Bologna, vai, è una cosa incredibile, dai. Ma quale vergogna? Stefano, ma se solo, ma tu, perché a uno che è zoppo, gli dici che dai, è zoppo. Al sanatorio devi andare, guarda, un amico mio, mandalo al sanatorio devi andare. Stefano da Bologna, dai, vai al sanatorio. Ciao, ciao Gruciani, niente, volevo raccontare un episodio di vita vissuta, riallacciandomi a quello che ha detto il teleascoltatore prima, il radioascoltatore prima, cioè? Della provocazione che alcune donne fanno mettendosi indumenti, minigonne, eccetera. Sì. Ma non è una provocazione, ragazzi, è una puttanata, no, detta da una signorina che si è convertita all'Islam, infatti. E alcuni ascoltatori purtroppo le hanno dato ragione a questa signorina qua, dicendo che effettivamente le donne vanno in giro troppo scosciate con le tette di fuori o col culo che si vede, dunque invitano allo stupro, alla violenza. Puttanata. Benissimo. Pazzesca, cui bisogna opporsi in ogni modo, perché per fortuna il simbolo della nostra civiltà, del nostro progresso, è la donna nuda, chiaro? Dai, beh, assolto, Stefano. Sì, assolto, assolutamente, dove, assolutamente. Dove ci sono donne nude, dove c'è la sessualità, anche ovviamente poi uno può scegliere, no? C'è la sessualità dirompente, la sessualità che sì, si vede, d'accordo. La pornografia, la prostituzione, anche tutto quello che volete, c'è la libertà, chiaro? Benissimo, negli altri paesi c'è l'oppressione, il comunismo, il fondamentalismo, quello comunismo che è. Anche residuale, ma c'è, Stefano, da guardare in Corea del Nord che c'è una forma particolare, certo, di comunismo, sì. Ma quello è. Stefano, dai, formalmente la prostituzione in Corea del Nord, per esempio, non c'è, le donne nude non si vedono. Ma non è vero neanche questo. Come no? Perché ci sono pubblicità con le donne nude in Corea del Nord? No, non credo. No, bisogna dire, ma la prostituzione c'è in Corea. Sì, come nascosta, anche? Nascosta, esatto, nascosta. Come in tutti i regimi. È appunto, malefici, è quello malefici. Che ho detto io. Ma sono i regimi, non Stefano, le persone, sì, non le... Le persone, i regimi, dai, d'accordo, sì. Allora, la mia se uno si rifà al comunismo non va bene, invece. Dai, Stefano. Certo, dottrina di morte. Stavo visitando l'acquario di Barcellona con le mie figlie ora minorenni. Sì. E siamo alle 2, alle 3 di pomeriggio, primo pomeriggio. Ma questo mi sono quando, trovato, scusa, quando? 3-4 anni fa, 5 anni fa massimo. Sì. E guardando fuori dalla vetrata del bellissimo acquario di Barcellona, guardando il porto, Laone. C'era una panchinetta in cui a un certo punto è arrivata una donna provocante al massimo, vestita con un pseudo burka, diciamo quei completini marroni, senza la reticella, però aveva era un completo, aperta la testa fino ai piedi, e a un certo punto è arrivato il suo uomo vestito all'occidentale, però chiaramente di origine magrebina, e se l'ha ingruppata sulla panchina. Eccolo. Allora, aspetta, insomma, me la racconti bene, abbiamo la borsa, abbiamo l'aggiornamento della borsa, me la racconti bene tra qualche istante, aspetta. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Breaking news. Le 20 e 31 minuti, lo avete sentito anche durante la zanzara, ancora la Francia, una presa di ostaggi è in corso in una stazione di servizio, questo riferisce l'ultima agenzia di Roubaix che è al confine con il Belgio. Dunque ancora la Francia, si parla di diversi feriti, prima si parlava di uomini armati asserragliati in un palazzo, la notizia di poco fa è che invece la presa di ostaggi è in corso in una stazione di servizio. Vi terremo ovviamente informati. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Camionisti, ascoltate la zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato. Allora, prima di riprendere con Stefano da Bologna per quella cosa straordinaria che ci stava raccontando, che ha visto a Barcellona, beh, caro Parenzo, devo darti una notizia oggi. Allora, ti ricordi quel caso di quei rom, di quel rom che ha investito 9 persone a Roma uccidendo una donna di origine filippina, fece un casino pazzesco, no, quella storia, la signora Corazon Abordo Perez, e ferì anche diverse persone. Bene, è arrivata la sentenza per quell'avvenimento, Prima Valle se non sbaglio, no? Tre giovanissimi rom scappando da un posto di blocco, eccetera eccetera. Allora, il minorenne che era la guida dell'auto è stato condannato a 6 anni per omicidio colposo. Omicidio colposo 6 anni, ragazzi. 180 km orari, ferire 9 persone, uccidere una persona investendo con un'auto. Anche poco, ho detto. Costa solo 6 anni di galera. 6 anni di galera per omicidio colposo. Il pubblico ministero aveva chiesto 16 anni, cioè una condanna esemplare, 16 anni. Alla fine 6 anni e già scarcerato questo signore, già scarcerato. È vero, minore, il tribunale dei minori, 17enne peraltro, cioè minore formalmente. Ma... Lo ha assegnato a una comunità. Per forza, essendo un minore per tutti. A una comunità l'ho assegnato. Ma che vuol dire? Non l'ho assegnato a una comunità. No, ma vabbè, ma su questo non è che puoi far volere. Sugli anni assegnati, d'accordo. Ma su questo non è che puoi far volere. Io non transigo su queste cose quasi. Ma così non transigo? Cioè, i minori 180, vanno in carcere. Con una macchina, beh, a parte che c'è affidati, il carcere minorile, come sai. Appunto, certo. Il carcere minorile va benissimo. Perché la comunità? Cioè 180 km orari. Beh, hai preso 6 anni, almeno fatte 6 anni, no? D'accordo. Ma fatti 6 anni in un carcere minorile. Poi quando diventa, non è che la pena, quando diventa maggiorenne, non è che scommettere che fra 2-3 anni questo esce. 2-3 anni esce. Ha ammazzato quando aveva 17 anni. A 20 anni questo è libero, è bello di fare il cazzo che vuole. Ha ferito 9 persone. Scusami, a 20 anni, a 17, tra 3 anni è libero, dai. Tra 3 anni è libero, diciamo cazzo. Ma se la condanna è a 6 anni. Se tu hai preso 6 anni, buona condotta, cazzi e mazzi, alla fine 3 anni te la cavi. Vediamo, dai. Vediamo. Dai, su. Che vergogna, ragazzi, che vergogna. Non perché è rom, ma è una vergogna in ogni caso. Poi per caso è rom. Però Stefano, dai, allora, non ho capito, che sono cosa qua. Hai visto? Sono qua, niente, per ricapitolare questa storia che di fantastico ben poco, perché è uno squallore assoluto, secondo me. Beh, sì, dicevo niente, fantastica perché semplicemente per il modo in cui, molto squallida, per il modo in cui la raccontavi, ma che cosa è successo? Adesso ricapitoliamo, la gente magari si è messa in collegamento primo adesso. Primo pomeriggio, verso le 2-3 di pomeriggio, mentre visitavo l'acquario di Barcellona con le mie figliolette, praticamente... Io fortunatamente, solo io guardando fuori, mi sono trovato questa situazione in cui c'era questa donna vestita dalla testa ai piedi, sì, con questo abito marrone, senza retina, però era completamente... Vabbè, islamica, macchicata. Che veniva, come dire, presa. Praticamente è arrivato il suo manico e se l'è ingroppata sopra, se l'è ingroppata sopra la panchina. Vabbè, d'accordo, facevano sesso, pure gli islamici possono fare sesso, amico mio, altrimenti certo, come si riprodurrebbe? Sicuramente la donna era tutto meno che provocante, sicuramente. Vabbè, allora che vuoi dire? Descrivendo questa scena, cosa molto nel terzo millennio dentro a una struttura avveniristica in pieno termine. Ma anzi, non mi pare una cosa prettamente islamica, tutt'altro. Ma non so. Ma invece, secondo me, non è questo, perché secondo me, anzi, queste persone viaggiano molto con la mente. Non avendo sicuramente... Ma non credo. Che collegamento c'è tra questa scena di non sesso capisco. Che tu hai visto e l'Islam, per esempio? Cioè, ti ha colpito il fatto che questa qua mi avesse... ha colpito il fatto che diciamo una religione che professa il rispetto della donna, come in questi giorni viene allora? Ricantato. Allora? Non mi sembra che di rispetto ci sia molto. Ma perché in questo caso no, scusa amico questo mio. Caso, ma in questo caso che l'ha fatta felice, se esatto, vogliamo usare un altro termine. Ha ragione, devo dare ragione occidentale in questo caso. Però non capisco a cosa serve questo episodio. Mi sembra molto ortodossa, considerando l'orario. Ma quello è un altro discorso. Ma non c'entra nulla con l'Islam questo. Questo veramente non c'entra nulla. Vedete Islam dappertutto e ogni cosa anche nelle scene di sesso, ma qui mi pare una cosa ho capito, però dico strideva con la situazione, ecco, posso capire se questo fosse stato provocante, se fosse avesse indotto, invece era totalmente l'antisesso, voglio dire. Vabbè, però ma quello sono affari suoi, frega lei. Ma guarda che è incredibile pure questa cosa, ma qua io non lo so, ma cosa gli interessa. Vabbè, a lei Stefano, ciao. Chiamare qualche complesso musicale islamico, Parezzo, qui alla Zanzara, dei muslim che cantano. Dei muslim che cantano qui, ci sono italiani. Cantanti arabi, italiani, bravissimi. Italiani voglio. Come ogni volta diciamo, non facciamo mai niente. Amici tuoi rom devono venire qui a cantare, eccetera. Una volta ho provato a portarli, però. Però che? Si sono fregati il biglietto, non sono venuti. Ma davvero? Allora, c'è un tuo amico, grande serata islamica questa qua. Molto bene. Grande serata islamica. Zucchi non è islamico. Ma come non è islamico, scusa? Ma non è islamico. No, è un fondamentalismo. Allora, abbiamo il responsabile della comunità somala a Padova, amico che si chiama Muhammad Ali Sheikh Nur. Sheikh Nur. Salam aleikum, Muhammad. Ma salam aleikum che? Buonasera, come stai, Muhammad? Ecco, sono in linea. Aleikum salam wa rahmat. Che la pace di Dio sia con voi. Aspetta, grazie, però, non si sente un cazzo. Scusa, no, non dico così. Ma scusa, è imam. Ma non è che sei una roba incredibile. No, non è un imam. Sei un imam. È imam, certo che è un imam. Sì, aspetta, mi senti bene o no? Ti pare che uno sì, dice, la sento benissimo. Io un po' meno. Comunque, si discute molto, caro signor Sheikh Nur, di questa frase che hai detto su Salvini. La frase è molto semplice. Che c'è di... ha detto: se vince Salvini in Italia, arriva l'ISIS. Che vuol dire? No, in poche parole io volevo semplicemente dire che il linguaggio provocatorio continuo, perché lui l'ultima trasmissione che vidi su Tele7, quando gli hanno chiesto sul titolo di Libero, ragazzi, se non sento bene non ci riesco. Aspetta, Sheikh Nur, aspetta un attimo, che sennò siamo tutti scioccati. No, non è colpa tua, per carità. Abbiamo un collegamento che funziona poco. Aspetta un secondo che ti richiamiamo, dai. Torino, vai! Dico che sono senza Dio e senza Madonna, così almeno. Ottimo. Ecco. Secondo me il problema è che appunto l'uomo vede il pelo e non capisce più niente, si imbizzarrisce, quindi... Ma che vuol dire che c'entra con questo professore? A coprire poi. No, è che senza con la donna, la libertà della donna di vestirsi come vuole, alla fine fa sì che l'uomo si... impazzisca, appunto, si imbizzarrisca e non lo fa ragionare razionalmente, e quindi la copre. E quindi? E quindi la copre. La copre in che senso? Le fa vestire come vuole lui, con gli abiti lunghi, neri, oppure così. E quindi hanno paura anche gli islamici della donna, per questo la coprono. Vabbè, questo non lo so perché la coprono. L'idea sua. La tua idea qual è? Non ho capito perché la coprono. Perché li fa impazzire, perché appunto la donna è bella e... non fa ragionare. Ah, tu dici più la coprono per una sorta di... Hanno paura di impazzire, di stuprare le donne, che ne so, di fare violenza, che cosa? O di essere manipolati, o perché magari sono uguali agli uomini e quindi magari potrebbero fare tutti i loro atteggiamenti, tutti i loro comportamenti che di solito fanno. Vabbè. Eros, ho capito. Intanto uno mi scrive: il Corano, che è quello che effettivamente penso anch'io in questi giorni, mi fa venire una gran voglia di ateismo. Beh, è vero un po', è vero. Filippo da Modena, abbiamo ricominciato con Muhammad Ali Shaknur, c'è o no? Sì, sono qua. Oh, adesso ti sento, caro Muhammad. Ti sento. Senti, allora, Salvini vuole addirittura cacciarti dal... Salam aleikum, intanto. Tu sei... Ma l'abbiamo già salutato? No, c'è un senatore che ha chiesto di cacciarmi. A parte che sono bugiardi e falsi, perché mi danno degli imam, io non sono mio imam. Ecco, Parenzo ha già detto una cazzata. Chieda al dottor Parenzo, che sono amico di... No, ha già detto una cazzata. Ma io pensavo fossi imam anche, cioè imam. Ma di chi della sei comunità, amico dei parenti di Parenzo? Di chi sei? Ma conosce benissimo mio padre anche lui. Facciamo parte dei gruppi di religione per la pace, di sessione di Paolo. Io musulmano, lui di un'altra religione, siamo insieme. Certo. Cosa incredibile, Muhammad Ali Shaknur. Allora, sì. Io non ho capito, ti vogliono cacciare dall'Italia, ma tu sei italiano. Molto però. Per bene. Sei italiano? Io sono più italiano di loro. Loro sono padani, io sono un cittadino italiano e sono libero di esprimere la mia opinione. Certo. No, su questo ti do ragione, però devo dire la verità. Possono al massimo chiedere la revoca della mia cittadinanza. Non ho studiato legge perché sono un biologo, però l'espulsione lo possono fare ai clandestini, agli spacciatori. Devono la Repubblica Badana in futuro, se ci sarà, se la devono inventare questa legge. La legge, certo. Io so, evviva l'Italia, sono un libero italiano e fiero di essere italiano, e ho figli italiani e moglie italiana, e mi sono laureato in Italia e servirò questo paese. Quando sento l'inno di Mameli provo le stesse emozioni che provavo quando sentivo l'inno della Somalia quando era una repubblica. Facciamo un applauso, però devo dire la verità, anche a me. No, questo discorso un po' mi ha colpito, anche a me. Ma perché è una persona per bene, molto. Grazie. No, l'applauso ci vuole, perché ha fatto un bel discorso. Ali Mohammed ha lui. No, però devo dire una cosa. Ha il diritto di mandare a quel paese, ecco, un leghista senza concludere, essere cacciato. Potevi concludere, no? Con un bel Salvini, io, se la vado a prendere in quel posto. Mi scusi se la interrompo. Io prima involontariamente ascoltavo il suo discorso sul commento del Corano. Sì. Le voglio fare una riflessione. Lei si immagina se la Divina Commedia viene tradotta in inglese o William Shakespeare viene tradotto in italiano, cosa rimane? La gente qua è talmente ignorante che non hanno capito che quello che leggono non è il Corano, è una interpretazione del Corano. Vabbè, ok, amico mio, però la musica tu la ascolti, ecco, lì, giusto? La ascolti la musica, perché uno invece è venuto a dire, uno, tu ascolti la Zanzara, mi dice. Ma quello è un integralista, la musica ci vuole, la musica riempie l'anima, sana l'anima, la musica fa parte. Ho capito, della però evidentemente questo dice che il profeta dice che non bisogna ascoltare la musica, il Corano no, sostiene questo, o è pazzo lui, oppure. Allora state attenti, non è pazzo lui, perché quello là è un potenziale terrorista. No, è dell'ISIS addirittura. Potenziale dell'ISIS. Senti, però scusa, tu sei più italiano di Salvini, ti senti più italiano di Salvini? Beh, diciamo la verità. Salvini è un padano, glielo ripeto, non mi dia, perché lui sta lì e dice Roma ladrona e prende neanche lei, non prende neanche un centesimo di quello che prende lui. Chi? Che ha preso gusto, va bene? Ti ha preso gusto offendendo, provocando, bombardiamo a casa loro, chiudiamo le moschee, un linguaggio che crea le discordanze e l'odio razziale fra i popoli. Cioè, per te la Lega va messa fuori legge? No, non sto dicendo questo. Beh, la Lega sì, è un partito democratico, sì. Il sindaco nostro di Palo, io sono istituzionalizzato e della Lega, lo rispetto. Perché in democrazia contano i numeri, dottore, mi scusi. No, ma lo so benissimo. Lo ecco, so benissimo. Allora, per i numeri, i politici cosa fanno? Per guadagnare i numeri bisogna far consenso. Per far consenso bisogna sputtanare e raccontare balle. Lei si ricorda di un grande personaggio che è stato praticamente distrutto da... Diceva Enzo Tortora, un personaggio della sì, come no, certo, che c'entra Tortora adesso? Io mi ricordo, mi è rimasto sempre questa roba qua, perché lui diceva chiagnere e fottere, loro dicono... Vedi? Cioè i leghisti chiagnano e fottono, dici? Chiagnere e fottere, chiagnano e fottere, sì, perché qua avevamo i gli spacciatori di droga, c'era uno di sinistra, il dottor Ivo, c'era Zanonato... Qui cambia la musica, l'orchestra, ma la musica è la stessa, non sta facendo un cavolo... Vabbè, questo è un altro discorso. Scusami, Shaknur, io non ho capito una cosa. No, tu aspetta un secondo, cosa. Aspetta un secondo. No, mi scusi, aspetta, mi scusi, aspetta. Attacca, Shaknur, aspetta. Attaccalo. Aspetta testa una bassa, cosa, questo infedele. Aspetta una cosa. Voglio chiederti una cosa molto semplice. È di un'educazione. I leghisti, è incredibile. I leghisti sono barbari, cioè sono incivili. Diciamo la verità. Alcuni sicuro, Salvini è un incivile, un barbaro. Che cos'è Salvini? No, c'è un mio amico. Mia nonna è leghista, mia suocera, scusami. Come la suocera leghista? Suocera leghista. Questo sì, è islamico con la suocera adesso leghista. Adesso mi ha detto figliolo, un con mi vago a trasferirmi a 5 Stelle, non ha da fare così, ti si può parlare di Iuri. Ma non ho capito un cazzo, scusa, amico perché mio. Ma glielo dici perché lui ha un accento meridionale, io sono un Ma che accento meridionale un cazzo? Ce l'hai tu, l'accento meridionale. Mi permetta, chiedi a David Parenzo che ha vissuto in Somalo. È Somalo, a me l'accento meridionale, ma se lo mando a fare in culo. No, non fa mica un accento da Veneto lei. Ma no, capito, amico mio, ma l'accento meridionale, perché con tutto il rispetto, no. Non faccio il politico, lei non ha un accento del nord. Ma ho capito, amico mio, d'accordo, ma sei somalo, cazzo, sei somalo di origine, non sei di... Ha ragione, ti redarguisce Ali Shaklour. Scusa, ma Ali, io voglio chiederti una cosa. Ali Shaklour è il numero uno. Dica. Ma non ho capito, tu hai detto però una frase, insomma, adesso, vince Salvini, arriva l'ISIS, ma che vuol dire? No, io non l'ho detto, non era un'affermazione, io ho dato la stessa risposta. Adesso non fare il politico, pure scusi, la legge è uguale per tutti o non è uguale per ma tutti? Ma sì, allora che vuol dire? Ecco, la risposta che dite, i musulmani bastardi cosa ha risposto? Sono musulmani quelli che hanno fatto la strada a Parigi? Sì. Va bene, ma adesso non fare il paraculo, hai detto con Salvini premier arriva l'ISIS, con Salvini premier arriva l'ISIS, come ti giustifichi per questa cosa? Io non ho detto che l'arriva l'ISIS, non conosco e condanno l'ISIS, sono dei viati. Vabbè, d'accordo. E non ho, la mia affermazione è stata chiarita tutto il sono dei bastardi. Il mio messaggio è arrivato, glielo ripeto. Io sorvo la stessa terrore e paura che hanno gli occidentali, perché vivo qua e mi conviene. Sono dei bastardi, qua. Dillo, sono dei bastardi. Lì si sono provocano. Odio fra la people, stupendo. Fra la gente. Odio l'ISIS. I leghisti non sono bastardi. Coloro che dicono bastardi, gli altri sono bastardi loro. Cominciando dal direttore che ha scritto quel libro. Cioè è un bastardo Belpietro. Colui che ha scritto. Vabbè, ma dai, su, ma ha dato del bastardo a Belpietro. Dai, beh, vabbè, su. Ma no, colui che ha scritto, che ci ha dato del bastardo a me, direttore, a mia madre, ai miei nonni, a tutta la mia gente, è più bastardo di noi. È un figlio illegittimo. Un figlio di puttana, No. Figlio di puttana. Scusa, ma che vuol dire con Salvini premier arriva l'ISIS? Scusa, amico mio. Questo è quello che hanno messo il messaggio che hai detto questo. Loro. Se vincesse Salvini, arriverebbe l'ISIS. No, che il contenuto. Lei parla tedesco, no, vero? No. No, neanche okay, tedesco parla. Ok, che allora glielo dico io, perché io sono una persona che ho studiato. No, però scusi, io non l'ho scoperto, solo adesso. Adesso glielo dico. La vostra trasmissione è anche satirica, per carità. Dimmi. Interpretare vuol dire il non detto. Il messaggio contenuto qual che ho trasmesso io qual è il pericolo che c'è quando si provoca di continuo che possono sorgere degli elementi di ISIS potenziali, ce l'abbiamo qua, perché quelli degli vabbè ISIS... hai detto in sostanza Salvini premier vabbè dobbiamo chiudere, guarda, dobbiamo chiudere, no amico mio aspetta, ti ho scoperto solo adesso. Sei un personaggio eccezionale. Ma quante volte ti ho detto invita il fratello Shaklour, invita fratello Shaklour, siete simpaticissimi, ci sentiamo, buon lavoro, mi ciao. State bene amico mio, ci sentiamo domani, ciao. Così come fate la lista Zanzara, fate la religione Zanzara, io voglio dare il mio 8 per 1000 a voi, non alla chiesa. Cruciani Akbar. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.